Io avrei retto 10 secondi con quella signorina lì, 10 secondi. Cioè questa che si presenta come se fosse un premio Nobel, come se fosse Rita Levi Montalcini. Ehi, questa che dice al presidente in carica, mi pare che stiamo a Ballarò. Ma va a morire ammazza e vattene, ma vatti a fare due passi davanti a Montecitorio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori. Un avviso ai nostri gentili ascoltatori, naturalmente vanno in onda loro rischio e pericolo di venire blobbati da Radio 24. Sentite qui, anche ieri Cruciani e Parenzo del programma La Zanzara hanno ripreso alcune telefonate di nostri ascoltatori. Per tutto quello che ha detto il Papa oggi, doveva prendersi tutti quegli immigrati e portarli in Vaticano e tenerli lì. Radio Padania dà il meglio di sé, caro David. Questi alcuni degli ascoltatori che sono intervenuti sulla visita del Papa a Lampedusa. Così Leo Cruciani ieri nel suo programma La Zanzara, che ha aperto rubandoci alcune telefonate. Guardavamo. Che furto! Che paura, David! Abbiamo rubato le telefonate da Radio Padania! Mamma mia! Ci denunzino tutti! Ma la cosa più divertente è che lei ancora, signor Cruciani, non ha ricordato, sì? È la notizia del giorno, cioè il signor Cicchitto che si permette di criticare l'infallibilità di Papa Francesco. Beh, ma ha fatto benissimo, devo preoccuparmi di una cosa. Di tracotanza assoluto da parte del signor Cicchitto. Ma che tracotanza? Io la cosa, io mi preoccupo non perché. Non l'ha mai visto, capito? Sì, io devo preoccuparmi, lo sai perché? Perché ieri ho detto la stessa cosa che oggi hanno detto diversi notabili del PDL, allora forse la cosa dovrebbe preoccuparmi, perché ho detto una cosa è fare il Papa, l'altra cioè la predica, una cosa è il governo. Oggi, come hai detto Cicchitto, oggi pari pari l'ha detto Cicchitto, vabbè, uguale. Mi devo preoccupare? Ti passo un ospite che è al mio fianco per un saluto rapidissimo e poi vai avanti con la tua trasmissione. Salutiamo Squinzi e intanto ti passo un ospite che è qui al mio fianco. Sì, chi è? Devi provare a riconoscere la voce, diciamo. Vabbè, sarà una delle tue pu- Chi pronto, è? Che sei Cruciano, sei? Sì, sono sì. Strunzo, Cruciano, strunzo, pure da destra sei, ciao. Ma chi è? Pronto. Chi è che fa il cretino? Chi è che non fa il cretino? Chi è? No, aspetta, chi è? Dai, Cruciani, perla, riconoscimi, dai, dai. Ma chi sei? Chi sei? Come faccio a riconoscerti? Grande cameo ti ho fatto, eh. Vabbè, dopo devi dirmi chi è, però, altrimenti la gente non capisce Lasciamo nulla. Facciamo il grande sondaggio, la gente deve scoprire chi è. Ma chi a, gliene frega? Luca, B, Telese, C, Luca Telese. Ah, mamma, è Telese, è Telese. O C. È Telese, vabbè, che personaggi che conosci, guarda. È una cosa veramente incredibile. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. Senti un altro ascoltatore di Radio Padania, però, eh. Padania sempre libera, guarda avanti. Io provo profonda pena, ma un senso veramente di pena, mi creda, quando una persona dice io ascolto Radio Padania per farmi delle sane risate. Allora, la voce di Radio Padania, non la mia, ma quella che arriva via telefono, è la voce di gente per bene che ha problemi esistenziali dal punto di vista economico, ha problemi di compatibilità etica. Oggi su Rai 2 hanno fatto vedere l'ennesimo sbarco e sul fondo della barca c'erano un sacco di derrate alimentari, pacchi ancora quasi integri di roba, li hanno abbandonati tutti lì. Dico, questa gente che è scesa dalle barche era bella in carne, secondo me non ho visto gente patita, hanno abbandonato il cibo. Dico, uno che ha fame, una scatoletta di carne, un pacco di biscotti, se lo mette sotto il braccio istintivamente, non lascia lì la roba da mangiare. Questi non hanno fame, il problema è un altro, ci vogliono invadere, Padania libera. Beh, quelli con la pancia, quelli con la pancia che non hanno bisogno di mangiare, ma ci vogliono semplicemente invadere. Guida il popolo nella tempesta. Vabbè, la notizia di ieri è un'altra, che Alemanno si deve mettere a lavorare, eh. Questo Fatti è il punto. Arriva. la partita IVA, l'apertura della partita IVA, perché prima guadagnavo da sindaco 5.300 euro, oggi 1.500. Proprio oggi ho firmato la pratica per la partita IVA, quindi lavoro pure per fare altre cose e ovviamente no. Sono entrato nel proprio della partita IVA, nella giornata di oggi. Però quello che fanno le partite IVA, però il consulente, sono ingegnere, quindi iscritto alla degli ingegneri. Da 5.300 a 1.500. Come sindaco prendeva circa? 5.300 ed è passato a consigliere comunale, quanto prendeva? Oggi il consiglio comunale sta a 1.500, una cosa questo. Compreso tutto, anche facendo il massimo delle presenze e tutto? Tutto. E vabbè, so cazzi, per ex sindaco Alemanno. Siamo qui, la Zanzara, 800240024, abbiamo già un ospite, un super ospite collegato, però è tornato il professor Becchi. È tornato il professor Becchi nella giornata in cui il PDL è incazzato perché hanno messo il processo in Cassazione per Mediaset al 30 luglio, anche se il processo va avanti da una decina d'anni, bisogna dire la verità. Insomma, da una decina d'anni, forse qualcosa in meno, comunque certo non è un processo celere. Comunque i giudici potrebbero andare in prescrizione, decideranno il 30 di luglio e tutti sono arrabbiati per la giustizia rapida, che è un po' un paradosso. È tornato però il professor Becchi a battagliare con Fassino, sindaco di Torino, sentite. Cose concrete che riguardano la vita della gente. Però per fare tutto questo ci voglio per fare Becchi, lei comune. Non sa, no, Becchi, ma lascia stare. Non ha mai governato neanche un condominio, lei Becchi, lascia stare. Cioè, non ha neanche mai governato un condominio, Becchi, avete l'indebitamento stare. Più alto di tutta l'Italia, 3.500 euro a persona, considerando persino i bambini. Nasconditi, difensore della TAV, che ti vai a nascondere. Guardava. Come lotta il professor Becchi con Fassino, come lotta, vatti a nascondere a Fassino, il grande guru grillino amico nostro. Siamo qui con Giorgio Faletti, benvenuto alla Zanzara, buonasera. Benvenuto, bentrovati, grazie a tutti quelli che hanno la compiacenza di ascoltare. Vabbè, dipende pure da quello che dice, caro Faletti. Come si sa, non è che io sia una persona molto intelligente. No, beh, che c'entra. Faccio con quello che ho. Ecco. Ognuno fa con quello che ha. Allora, però, il suo nome mi era rimasto, penso, lei è una persona molto conosciuta, però per quello che riguarda la politica mi era rimasto un po' qui il suo nome, perché c'era, non so se ti ricordi, Parenzo, una intercettazione clamorosa, ma di qualche tempo fa, di qualche mese fa, perché noi siamo un po' bastardi, dunque la facciamo riascoltare. Era una conversazione, Parenzo, tu sicuramente te la sei scordata, tra il padre della signora Minetti, il padre della signora Minetti e la stessa Nicole Minetti, sentiamo. Sì, su Faletti, certo. Sai Giorgio Faletti, lo scrittore? Giorgio, sì. Testa di cazzo comunista, guarda. Oh cazzo, è via da casa vostra? Sì, era qua perché Simone lo conosce, un suo amico, allora è venuto a cena, no? Mm-hmm. A un certo punto mi fa, ma tu mi fa cosa fai nella vita? Gli ho detto, ah, io faccio il consigliere regionale, no? Di qua e di là. Mm-hmm. Mi fa, ma per che partito? Gli ho detto, il PDL, no? Minchia, è iniziato, ma perché? Qui io, il sistema italiano, un regime, perché di qua, di là, quelle puttane che fanno le campagne elettorali a furia di pompini per finire in Parlamento. Allora, caro Faletti, io voglio capire, è vera questa conversazione che lei ha avuto con la signora Minetti, Faletti Minetti? Faletti Minetti, fa anche rima. Allora, devo precisare, visto che la volta missione molto ascoltato, vorrei precisare la cosa in via definitiva. Allora, prima di tutto la signora Minetti ci ha azzeccato al 50% in quanto io non sono comunista. Mai stato comunista, vabbè, questo... Come? Ecco, ma per quello che riguarda, io mi sono espresso in un modo molto più fantasioso, molto più... Ovviamente certe cose sono rimaste, dovrebbero rimanere nel segreto del confessionale. Ma è normale che uno in una conversazione possa dire una cosa di questo tipo, in libertà. No, ma io non ho detto quello, lei l'ha riportata così perché probabilmente lei le cose le vede in quel modo lì. Dato che lei in quel tipo di attività probabilmente c'è in mezzo, le vede nel modo giusto. Io sono stato molto più, diciamo, molto più elegante, anche se alla fine la sostanza era quella. Però cioè lei non ha mai pronunciato pompini, puttane o cose di questo tipo? Assolutamente no, non mi pare di ricordare. Comunque anche il concetto era quello, adesso non nascondiamoci dietro. Appunto, tipo, però appunto. Non sono personalmente contrario alla volgarità se condita dalla creatività, nel senso che io ho usato un'iperbole, con rispetto, un'espressione che era molto più fantasiosa. E non quella lì così terra a terra, che è quella che è stata riportata. E che espressione è, se se la ricorda? Ma non me la ricordo. Poi chi se ne frega da un certo punto di vista di questa cosa. Però non era quella, ecco, non sono stato così esplicito, anche perché non appartiene al mio. Quel tipo di linguaggio non mi appartiene molto. Quel comunista di merda. Comunque lei vuole dire, lei, io non sono mai stato comunista, il che non era comunque un'offesa, cioè. No, lei mi ha detto che sono una testa di cazzo comunista, io ho detto ci ha preso il 50% perché non sono comunista. Però un po' testa di cazzo, testa di cazzo sì. L'altra metà può anche darsi che sia vero, qualcuno dice di sì, qualcuno dice no. Senta un attimo, lo sa che la Minetti, tra l'altro, recentemente, devo dire che sono un po' invidioso di questa cosa qua. 100 euro al minuto in discoteca, se non sbaglio. Adesso si fa pagare 100 euro al minuto in discoteca. Come cazzarola è possibile una cosa di questo tipo? Beh, ma il mercato, no, Faletti, da un certo punto di vista, no? Ma è sempre. Non stupiti di quello. Io che frequento in qualche modo il mondo dello spettacolo, sì, eccetera. Sì. Quello succedeva anche col povero Taricone quando era il suo momento di maggiore successo. Assolutamente. Grande Fratello. Cioè, poi io sono in. Ci sono dei ragazzi con cui sto collaborando, professori d'orchestra, gente che ha passato una vita a studiare musica e prende 100 euro all'anno, nonostante il fatto che abbiano alle spalle anni di studi. Comunque la ragazza ha talento e molto probabilmente, Parenzo, se non avesse a talento, un certo talento ce l'ha, su questo non c'è. Guardi, adesso non voglio sembrare polemico, ma se vada un chirurgo pratico, quel talento lì ce l'ha anche lei, Lei dice, Lei dice, che è solo meglio del medico. Beh, molto ha fatto il chirurgo plastico, secondo lei, molto gran parte del talento. Lei che l'ha vista dal vivo, è proprio così, no, plastificata. No, devo dire che si vedono gli interventi del ristrutturatore, però onestamente è una bella ragazza, cioè se ipotizziamo è il suo tipo Faletti. Uso un'altra espressione fantasiosa. Se io arrivassi in albergo e una ragazza così avesse corrotto il portiere per aspettarmi nella mia camera, non è che faccio uno scandalo. No, assolutamente. Ecco, non è che dico come vi permettete. No, no. Anzi, traffico, torniamo su. Mangio la chiave finché non mi operano. Allora, dopo il traffico, Faletti deve immaginare, se vuole, se può, il finale ideale, grande scrittore di thriller, eccetera, per il Caimano. La Zanzara. C'è un nostro amico che scrive: caro David, la Minetti merita più lei 100 euro al minuto dei 4-5 mila euro al mese che tu fai dare a Parenzo. Caro amico che scrivi, dopo riveleremo il nome. Ma questo può anche essere difficile competere con la beltà della signora Minetti. Vabbè, ormai è roba passata la Minetti, tra l'altro. Faletti, scusi, lei ha votato per caso Grillo? Perché la cosa andava molto di moda, persino io che sono l'antigrillismo in persona ho votato Grillo un po' per motivi tattici, come dire. Ma guardi, preferisco non rivelare il mio voto, anche perché tutto quello che dico può essere usato contro di me in questo paese. Vabbè, lei vuole piacere un po' a tutti in quanto scrittore? No, non è quello, è il fatto che in questo momento posso utilizzare 5 minuti. Sì, un po' di meno, però sì. No, 5 minuti, 10 secondi. Ecco, in casa mia il televisore è arrivato che io avevo 6 anni. Adesso ne ho 63, per cui sono quanti anni di televisione? 58, 55. Di telegiornale, ecco. E sono cambiando i nomi dei telegiornali che io ho seguito nel corso della mia vita. Ecco, uno di 30 anni fa potrebbe essere mandato in onda adesso, a parte le cose specifiche. Perché non è cambiato un cazzo. Sempre le stesse cose. Negli altri paesi, rimangono gli stessi partiti, cambia le persone. Qui da noi sono le stesse persone da 30 anni e continuano a cambiare i nomi dei partiti. Onestamente, se posso essere onesto, mi sono anche un po' rotto le balle. Scusi, sì, d'accordo, però uno può anche dirlo. Cioè, io l'ho detto apertamente, sono anche più esposto di lei, è vero che lei deve vendere i libri, deve fare gli spettacoli, eccetera, eccetera. Comunque, vabbè, mettiamo che lei abbia votato Grillo. È deluso dal comportamento di Grillo di adesso o no? Ma devo dire che in parte sì, lo pensavo diciamo un pochino più proprio, a meno che non stia facendo la tattica di sedersi sulla riva del passare i cadaveri dei nemici. Questo, beh, però aspetta e spera, E questo sì, sicuramente sì, anche perché ci sono delle persone che hanno dimostrato di non temere neanche le bombe atomiche. Senta Faletti, ma lei che finale scriverebbe in un thriller per Berlusconi? Se mai ci sarà un finale, perché l'uomo sembra Highlander, no? L'uomo sembra dotato di molte molte vite. Per certi versi, sotto certi profili è ammirevole, perché una persona combatte come un leone. Combatte come un leone e poi risorge dalle sue ceneri, anzi, quando tutti sono convinti che sia là affossato, morto. Esatto, io uso un'espressione, cioè uno di quelli che finché non hanno i vermi non sono morti, ecco. Beh, questa è buona, Parenzo, no? Finché non hai i vermi non è morto. Devo dire che è un'espressione che rende l'idea. Ma lei spera un po', Faletti, in Berlusconi nella tomba, diciamo la verità, no, ma dato che anzi l'unica certezza che un essere umano ha nella vita è che prima o poi morirà, sì? Io non auguro nulla di male a nessuno, temo che succederà anche lui, che non gli andrà in prescrizione anche quello, ecco. Ah, punterà la prescrizione anche di quello, eh? Io penso di sì, se c'ha gli avvocati giusti. Senta un po', ma lei vuole però che Berlusconi si tolga un po' dalle palle, diciamola tutta, no? Cioè, proprio non è tra i suoi. Ma devo dire, sono un po' deluso dagli italiani, sono deluso anche da me forse. Perché dagli italiani? Perché continuano a preferire Berlusconi? No, per un fatto che se abbiamo quello che abbiamo, sì, probabilmente forse non meritiamo di meglio. C'è un proverbio che dice: se fai quel che fai, hai quel che hai. La cosa. Cioè, ci sono quando sono conclamate certe cose, sono comprovate, quando sono sulla faccia di tutti, nella bocca di tutti, alla portata di tutti, se uno non reagisce, se non piglia delle decisioni alternative, se c'è ancora qualcuno che segue il pifferaio magico, probabilmente è giusto così, cioè io non lo so, non trovo. Sì, no, ho capito, lei ribaltando, Parenzo, quello che disse Berlusconi una volta, sono gli italiani ad essere coglioni. In qualche modo, non dico che sono gli italiani ad essere coglioni, ma fra parentesi, in mezzo agli italiani in qualche modo mi ci metto anch'io, non è che gli italiani, sto dicendo gli altri. No, gli italiani in generale. Ma non è vero che proprio comunista, dai. Abbiamo delle prove, forse coglione è esagerato, forse però bisognerebbe usare un termine un briciolino più filosofico, io userei masochisti. Parenzo, che c'hai da dire? Che sei lì che stai lì sul trespolo. Visto, siccome lui ha conosciuto il grande Faletti, il Berlusconi editore, lo ricorderà anche come comunque un uomo che le donne le amava, in veste di editore, anche lì era molto corteggiante, no, col genere femminile. No, c'è da dire una cosa, che io credo che lui fosse veramente molto amante delle donne, e io lo posso anche capire, però penso che abbia molto molto anche saputo coltivare la sua leggenda, quasi dire. Cioè dice che dice che è proprio zero, da quel punto. No, io non è che non lo so, mi sta facendo passare da un estremo all'altro. Io ho sentito Berlusconi dire una cosa in televisione dicendo: sono una persona di successo, sono ricco, non sono stupido, e poi modestamente dicono anche che ci so fare. Ragazzi, una che a dare 2500 euro al mese a delle ragazze per averle lì che ballano, sono capace anch'io. Beh, ballano, magari. Con quelle cifre lì divento Giacomo Casanova, con Porfirio Rubirosa sulle spalle. Cioè, è facile in questo modo conquistare, dice lei, no? Poi ha anche inflazionato il mercato, diciamo così. Gente che aveva dicono che avessero delle tariffe abbastanza accessibili per i comuni mortali, lui è arrivato, bravo. Ha rovinato il mercato. Sì. Faletti, beh, ci venga a trovare più spesso qui. Che dobbiamo fare? Una volta di venire in studio. Bene. Essere collegato telefonicamente, anche perché mi piace interagire con le persone vedendo. Abbracci, a presto. Giornale Radio. Ciao. Ciao, Faletti. La Zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. che affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo a fiè. Ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist. La zanzara twist. Una botta a polpaccio e poi all'altro. Una botta nel braccio e poi all'altro. Prendila, prendila, schiacciala, schiacciala, tiè. Voglio essere lapidario, lei è una persona simpatica ma è uno scacciafighe. Quando c'è della figa in trasmissione faccia parlare Cruciani, per favore. Se no attaccano, non rispondono più. La meravigliosa difesa di Berlusconi dopo la decisione di emettere la sentenza, o comunque la Cassazione si riunirà il 30 luglio, tempi molto veloci, Parenzo, molto veloci, la straordinaria difesa che c'è, dimmi che c'è, che c'è. No, dico, signor Cruciani, è proprio necessario aprire la trasmissione con quel signore che mi definisce scacciafiga? No, chiedo proprio... Aspetta un attimo. Alle maestranze della zanzara. Aspetta un attimo. È necessario aprire con questa. No, non è necessario, però lo voglio io. E dunque quello che voglio io, come sai, è legge assoluta. E dunque decido io. Signor Malan, nostro amico Malan, quello che un tempo faceva lavorare, forse anche adesso, la moglie. Stamattina era con me a Omnibus. Sì, che ha fatto Malan? Ti ha aggredito? No, abbiamo lottato come leoni sulla vicenda Berlusconi. Malan, sarebbe come se Obama fosse ineleggibile. Però Obama non ha dei problemini, no? Comunque, vabbè. Lui la sua posizione in Mediaset, quale che sia, è la stessa del 94 ad oggi. Sì, però non si è mai visto. C'è qualcuno che dice, cioè, sarebbe come se l'anno prossimo dichiarano che Obama buona, è ineleggibile. Cioè, una roba incredibile. Questa era sulla ineleggibilità. E anche secondo me l'ineleggibilità è una follia. È una follia. Della signora Sardoni. Sì, vabbè, chi se ne frega. Ma chi se ne frega? Perché devi sempre precisare queste cose? Perché? Però la cosa clamorosa è un'altra, la cosa clamorosa è la telefonata di ieri della zanzara a Erminio Boso, che sta suscitando un vespaio di polemiche. La riproponiamo qui, cari amici che siete all'ascolto, integrale Erminio Boso alla zanzara, che dice: se affonda un barcone sono contento. Sì? Boso? Dimmi. Sono Parenzo, come stai? Bene. Hai visto il Papa a Lampedusa, finalmente, bellissimo, con gli immigrati. Cosa vuoi farci? Anche il Papa ha diritto di fare i suoi viaggi al mare. Ma che mare, ha dato una grande lezione di civiltà, Boso. Grande lezione di civiltà. Siamo tutti responsabili, ha detto il Papa. Ma tutti. Guarda, se tu ti senti responsabile, va bene così. Io sono un irresponsabile e le chiedo al Papa che mi dia un po' di soldi, un po' di terreno per mettere dentro gli extracomunitari che vengono. Io speravo che tu oggi, come dire, abbassassi le armi del razzismo e del tuo solito linguaggio. Motivo. Di fronte a quel motivo, a quel bellissimo bacio che il Papa ha dato a quel ragazzino migrante. Ma può baciare chi vuole lui. Ma guarda, io ti trovo ogni volta, provo a chiamarti e spero che tu diventi un attimino più sensibile, invece sempre per sempre nessun motivo. Beh, io non divento ipocrita come tutti voi, Ma tutti noi chi? Cioè il Papa è andato lì a Lampedusa, ha abbracciato quel di ipocriti voi. Della funzione informativa siete una banda di ipocriti. Ma noi chi? Ma tu, voglio voi dire, seguite. Ma tu ti reputi un buon cattolico? Dal popolo. Ma a ti me reputi, non me ne frega niente. Ma ti reputi un buon cattolico tu? Io mi reputo. Sei una cattolico buona a corrente alternata, cerca sei. Di difendere la propria famiglia e la propria ma casa. Ma quale? Ma chi vuoi che venga lì su in montagna da te, forza? Vedi, non hai capito niente della vita. Senti, io la voglio tua lei... fortuna è essere di una persona che non capisce niente, per cui sei una persona felice. Sì, per quel motivo là sei felice, perché non capisci niente. Guarda, io vorrei che tu rileggessi le parole del Papa a Lampedusa. Io non rileggo niente, io seguo quotidianamente la vita, guardo cosa costa e cosa succede nel il mondo. Papa ha deposto in mare una corona di fiori. Ma non me ne frega niente di quello che ha fatto il Papa. Per ricordare capire? I migranti morti non in mare, vergognati almeno. Voi giornalisti. Ma cosa è ipocrita? Voi siete dei venditori di fumo, siete delle persone che permettono la violenza in casa da parte di questa gente. Ma quale violenza? Qui si parla di persone che sono morte in quel però mare. Però su questo siete devo dire... dei negrieri. Voi vendete la carne umana per il vostro audience. Signori, però devo dire la verità, su questo... Su siete questo, ipocriti! Su questo devo dare un pizzico di ragione a Boso, la dico grossa, no? La dico certo, grossa. Voi devo dare... siete solo che degli ipocriti. Dare ragione a Boso. No, devo dire... Se fosse la possibilità di fare audience, voi sareste finiti. Ma come cavalcate con ipocrisia tutte le disgrazie delle persone. Allora, delle noi, famiglie. Mi dica la verità, boss. Allora, lei è contento quando un barcone affonda? Sì. Eccolo. Sì, perché pagano quelle persone che giocano sulla pelle della gente. Ma muoiono delle persone, non gli scafisti, vergognati! Ma stai zitto, dottor Robetto. Ma come, ma come si fa a dire? Ma che umanità hai? Ma come si fa a dire che ti piace quando cadono, quando affondano le navi? Ma richiamalo subito. E poi non era più reperibile il signor Boso. Devo dire la verità, cari ascoltatori della Zanzara. Avete sentito le parole chiarissime, le parole chiarissime di Boso. Parenzo, vai in un posto dove c'è poco rumore, se no mi incazzo. Allora, ho capito, mettiti in una stanza normale. C'è un chiacchiericcio dietro, assurdo, e non si capisce niente. C'è Giovanna Ribotti. Ma chi se ne frega? Marinetti, Mia Ceran. Guarda, è incredibile, guarda. È incredibile, ma tu fai solo, parli solo degli altri per leccare il culo. Guarda che è una cosa pazzesca. Poi dice che io esaspero gli animi degli ascoltatori. Cioè, stai facendo tutta la lista di persone che sta accanto a te. Ma chi se ne frega? Allora, devo dire una cosa. Devo dire una cosa. Signor Boso, quando dice che me ne frego, anzi sono contento se affonda un barcone, ovviamente, secondo me ha torto. Io non sono contento. Però dico una cosa. Chi prende un barcone, chi lo organizza, ovviamente, e chi è sopra un barcone, lo fa a suo rischio e pericolo, a suo rischio e pericolo, anche se è disperato e prende un barcone, non è che poi uno, cioè, sa benissimo che si può affondare, lo sa perfettamente, perché ovviamente è successo tante volte, per cui stiamo calmi, lo fa a suo rischio e pericolo, poi per carità, la morte dispiace, uno affonda e crepa. Ma ti sembra una roba normale? Che cosa? Che cosa ho detto di così scandaloso? Che cosa ho detto di così scandaloso? Dimmelo. Sembra di aver detto una cosa vagamente che chi intelligente. Prende. Ma no, intelligente, è quello che penso. Lascia perdere che sia intelligente o meno. Non me ne frega niente di dare patenti di intelligenza. Umana. Ma non me ne frega niente di essere umano. Non hai capito ancora? Non è nessuna. Tu non hai fatto nessuna. Cioè, qui ci sono persone che per scappare dalla povertà o dalla guerra decidono di rischiare. No, ma questo lo dici tu. Questo lo dici tu. Evidente che è così. Per una parte di persone è così. Questo, no, io di fronte a questo dico che chi prende il barcone. Sta bene in un paese. Chi sta bene in un paese? Non senti, è che non fare il politicamente corretto, Parenzo. Con la carretta del mare. Io ho detto un'altra cosa. Non è politicamente corretto. C'è la morte in quel mare lì. Lo capisci o no? Io ho detto un'altra cosa. Ho detto che ovviamente mi dispiace se una persona muore. Mi dispiace se un barcone affonda. Non sono come Boso che dice che è contento. Assolutamente no. Però devo dire la verità, chi prende un barcone, siccome le informazioni circolano in questo mondo, ma sa benissimo a cosa va incontro. Ma sì, ho detto solo questo, titoli del TG3. È ovvio che uno lo sa che sta rischiando benissimo la vita quando fa quella scelta titoli lì. Del ma è TG3. Ovvio, ma che dici? Titoli del TG3. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3. Di Bersani. Fissata in tempi record, l'udienza in Cassazione per il processo Mediaset che vede imputato Berlusconi sarà il 30 luglio. Sull'accelerazione del terzo grado di giudizio scende in campo tutto il PDL, Brunetta in gioco la libertà, Bondi siamo pronti a reagire, protestano anche i ministri. Domani il vertice di maggioranza al centro fisco ed economia, Letta le questioni giudiziarie del Cavaliere non avranno influenza sul governo. Cicchito e la Santanchè reagiscono alle parole del Papa a Lampedusa, un conto è predicare, un altro è governare, la Presidente della Camera Boldrini è ospite del TG3. Marchionne, senza regole certe la Fiat non farà più investimenti in Italia, mano tesa alla Fiomi, incontriamoci, il Corriere della Sera, un valore da proteggere. L'Egitto al voto entro 6 mesi, nuova Costituzione e nuovo Presidente, ma i partiti islamici non ci stanno, gli appelli per la fine delle violenze. Stroncato da un cancro, l'eroe di Fukushima, l'ex direttore della centrale nucleare, non fuggì e raffreddò i reattori per evitare la catastrofe. L'azienda, nessuna relazione tra la malattia e le radiazioni. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. Mi scrivono, non sarà che sono disperati, no, eh? e un altro ancora: dopo stasera non ascolterò più Giuseppe Cruciani. Io rispondo: ma chi se ne frega, io ho detto semplicemente quello che penso, che chi si mette su un barcone sa benissimo a cosa va incontro, punto. Non ho detto che non ho detto che è giusto che muoiano, né sono contento che queste persone affondino e muoiano, come ha detto Bosco. Ma cosa vuol dire? Fammi sentire qualche persona, va, tu stai zitto un attimo. Simone da Milano, buonasera Simone. Sì, buonasera dottor Cruciani, buonasera dottor Parenzo. Vada, niente, vada. Una semplice disquisizione con Parenzo. Sì. Per quanto riguarda l'umanità di Boso, eccetera, no? Ora io volevo chiedere al dottor Parenzo, è umanità? Io abito a Sesto San Giovanni, no? Sì. Ho già provato a chiamare diverse volte. Va bene, ha provato a chiamare, oggi parla, su, avanti. Rispetto, no? Ecco, l'unica cosa volevo chiedere a Parenzo: secondo lui, no, come valuta il fatto che ad esempio nella mia città, ma anche intorno a Milano, no, ci siano dei interi gruppi di persone abbandonati sui parcheggi dove probabilmente nessuno si interessa? Voglio dire, cioè, quella non è integrazione, quella che... Vabbè, guarda, i barboni, esistono anche i barboni italiani, su Simone, dai, forza. No, vabbè, no, qui stiamo parlando di extracomunitari, di... E vabbè, ho capito, ma extracomunitari... Allora io dico, è questa una società civile? È troppo facile. Guardi Simone, lo sa qual è la mia posizione su queste cose qua. Chi ha un permesso di stare in Italia, stia in Italia. Poi può andare male. Aspetti un attimo, fermo. Può andare male il lavoro per italiani e non italiani. Uno può finire ai bordi di una stazione, può finire alla Caritas, può finire come un barbone. Bene, chi non ha il permesso di stare in Italia, i documenti per stare in Italia, deve essere cacciato via. Questa è la mia posizione. Certo, cacciato via. Questa è la mia posizione. Infatti, guarda, io la mia no, idea, ma sentiamo la Parenzo, idea. Che è interessante, Parenzo. No, ma guarda, è veramente, è un dibattito talmente vergognoso fatto sulle vite umane, perché qui non ci dovrebbe essere distinzione destra-sinistra, ma chi sta con la vita umana e chi è contro? E chi è... Ma che c'entra la vita umana? Mamma mia, che banalità, che banalità. No, è il rispetto, perché chi decide? Che banalità, che banalità. Quello che voi, che grandi banalità, banale, che grandi ma banalità. Ma chi decide di mettersi su una carretta del mare e di affrontare quel viaggio con i bambini e le nonne e i figli, rischiando di morire, perché si sa che c'è una percentuale... Vabbè, ma molto stai dicendo alta. Cose ovvie. Benissimo, stai dicendo cose ovvie. No, sto dicendo solo una cosa ovvia, quindi basterebbe questo per fermare qualsiasi tipo di speculazione e discussione di quello di Sesto San Giovanni, di quell'altro pirla che tra un po' chiamerà dicendosi di prenda a casa sua, di quell'altro poveretto che da Gorgonzola che telefona. Chissà perché hai detto solo da Gorgonzola, perché al sud che c'hanno, non la pensano allo stesso modo, solo oppure, a Gorgonzola, a Sesto San Giovanni. Oppure da giù, certo. Vabbè, dai, veloce, su, Davide, dai. Allora? Si devono solo vergognare, mancanza di umanità totale. Vabbè, hai detto la solita cosa banale. Samuele da Urbino, anzi no, c'è la borsa, torniamo subito. La zanzara. Zanzare, dietro di montagna, in collina, in campagna e al mare. E poi bisogna dire che gli immigrati che arrivano a Lampedusa in ogni caso sono una piccola minoranza rispetto a quelli che arrivano da altre parti. Questo bisogna sempre dirlo. Però Boso la pensa in questo modo. Mi dica la verità, Boso. Allora lei è contento quando un barcone affonda? Sì. Eccolo. Sì, perché pagano quelle persone che giocano sulla pelle della gente. Ma muoiono delle persone, non gli scafisti, vergognati! Oh, vergognati, lo aggiungo pure io, David, sia chiaro, sia chiaro. Non si era capito all'inizio, Senti questo che mi scrive: è il simbolo, io sarei il simbolo migliore della globalizzazione dell'indifferenza. Che schifo, e che schifo che Radio 24 e il Sole 24 Ore gli permettono di farsi bello e diventare famoso grazie al suo bullismo e qualunquismo da quattro soldi, mi scrive Alessandro. Riposare. Come godo! Tu trema intanto, tu trema che sta arrivando il signor Cairo, tu che ti fai rimborsare i taxi. No. I taxi a go go. No. I taxi a go go. No. E sì, io ho testimonianze dirette. Tu ti fai rimborsare i taxi a go go, diciamo al signor Cairo. Beh, bisogna dirle alcune cose. Al signor Cairo. No. Sì, ma perché senti che quello che stupido, ha detto. Voglio dire. Ma qui c'è grande trasparenza, sempre grande trasparenza. Ma c'è tutto documentato, io non ho ma fatto, certo, fatto per carità, però diciamola, va. Diciamo che tanto comunque ma ci non diciamo proprio. Diciamo, niente. diciamo. abbiamo detto, abbiamo accusato, vabbè, comunque. Ma non c'è nulla da dire da accusare. Senti, senti Cairo, senti Cairo. Ma te ti hanno proprio dentro la testa, ti hanno buccato. Hai dato dello stupido a Cairo? No, a te. Ah, no, ma ecco, te, no. Senti, senti, senti. Alleggeriremo di costi una rete che forse oggi ne ha un po' troppi. Ti è circolata una storiella simpatica relativamente all'uso dei taxi alla 7. Effettivamente ci siamo stupiti un po' che ci fosse stato un costo di taxi lo scorso anno di 500.000 euro. Quindi probabilmente la riduzione metterà in crisi il settore dei taxi a Roma, però voglio dire, credo che dal nostro punto di vista noi beneficeremo. Stai attento. Ma io cosa c'entro? Io dico solo stai attento, basta, dico solo questo. Sono un umile pedina dell'ingranaggio. Ma umile pedina dell'ingranaggio, stupida, scherza un po', mamma mia come diventi serio, che paura che hai, che fai, te la fai sotto. Marina Ripa di Meana, senti, Marina Ripa di Meana. Mi fai ma non borbotta, borbotti, balbetti, stai tranquillo, stai calmo, non è successo niente. Marina Ripa di Meana, senti. Tutta questa gente che lasciamo entrare, lo so, vedremo. Questo buonismo, ma che lo so? Lasciamo entrare, ma vedremo. Qualcuno facesse entrare allora in Vaticano, non solo per le strade di Lampedusa. Sì, in Vaticano questo... non entra nessuno. Ma... Marina Ripa di Meana, siamo Marina Ripa di Meana, vabbè. Cicchitto ha detto che una cosa è la predica, una cosa è governare, la critica al Papa, così è stata interpretata, secondo me non era una critica, comunque mettiamocela pure questa cosa. Ma ve lo ricordate Cicchitto alle prese con Parenzo? Beh, l'abbiamo recuperato, No. Assolutamente trascurabile. Ma come trascurabile? Perché a livello culturale e intellettuale è molto mediocre. Ma dal punto di vista anche, come dire, del simbolo politico. Ma quale simbolo? Di simbolo. La lotta, di simbolo ce n'ho Falcone, non Saviano. Anche anche. Simbolo sono Falcone e Borsellino. Gli altri sono simboli vostri e tenetevi i nostri. Nostri di chi? Scusi. Di gente come lei. E quegli altri sono simboli vostri, di gente come lei. Ma Saviano è un simbolo. Per voi sarà un simbolo. Ti dà l'idea di cos'è Cicchitto, ma no? è un grandissimo, cioè, voglio dire, ma è un grandissimo giornalista d'inchiesta gli pone una domanda, ma che eri tu, beh, parlo di me, d'accordo. Un giornalista d'inchiesta gli pone una domanda e lui dice, per gente che lo dice, hai capito, farò riascoltare proprio il finale, cioè, un giornalista pone una domanda, io oserei dire anche un grande giornalista, sì, pone una domanda, sì, però sarà pure un grande giornalista, però stai attento ai taxi, stai attento ai taxi di Cairo. Ma io ho testimonianze dirette del tuo spreco continuo di taxi. C'ho un buono in mano, c'ho un buono, amico mio. Così dicevi, c'ho un buono, amico mio. Bisogna dirle queste cose, signor Cairo, no? Io non so se tu sei nato stupido o lo sei diventato, quindi è una roba curiosa, sarebbe da capire. Matteo da Cesena. Cioè, sei caduto dal seggiolone. Matteo da Cesena, io sono me stesso, questa è la differenza. Matteo da Cesena. Oppure nel corso degli anni sei diventato imbecille. Matteo da Cesena, dica Matteo. Sì. Buonasera a tutti. Volevo semplicemente fare un intervento relativamente alla mancanza morale umana da parte del signor Boso. Vabbè, lo sappiamo, su non sia scontato. No, non è questione di essere scontato. È che di fronte a certe situazioni non ci possono essere atteggiamenti di questo tipo. Lo trovo semplicemente umanamente è intellettualmente inconcepibile. E aggiungo inoltre che anche chi va a lavorare tutti i giorni a fare il muratore lo sa che ogni anno muoiono centinaia di persone. E quindi è lo stesso discorso stupido che lei ha fatto. Ma io non ho fatto assolutamente un discorso stupido, guardi. Io ho detto semplicemente una cosa, che al di là della pena che uno può provare, del dramma, quello che volete, eccetera, eccetera, del fenomeno che è un fenomeno ormai decennale di migrazione, se non addirittura di centinaia di anni, c'è una questione molto semplice. Oggi si sa tutto. Chi si mette su un barcone sa cosa va incontro. Appunto, io dico solo questo. Benissimo. Poi provo Allora dico ai miei colleghi che tutti i giorni vanno sulle impalcature, sappiate che se morite lo avete fatto con la consapevolezza che ogni giorno qualcuno rischia di fare. Vabbè, ma è diverso su salire su un barcone o mettersi in macchina. Matteo, non dica stronzate, su, non dica stronzate. Dai, su. Comunque sono taxi amari, sono taxi amari, taxi amari lì alla 7, taxi amari. Samuele da Urbino, Samuele, vada. Pronto. Vada. Però Maremma, ragazzi, stasera proprio è una cosa, non si può più. Morti, tragedia da tutte le parti. Ma morti chi? Morti chi, Samuele? Ma... Io sento solo un chiacchiericcio dietro di Parenzo, fastidiosissimo, fastidiosissimo. Sì, continuavi a sentirlo per tutta la sera, guarda, mettiti il cuore in pace. Ma io non chiamo Durbino, ma sono Durbino, capito? Allora a me... Vabbè. No, niente, volevo capire, no? Se lei avrebbe apprezzato, no? un souvenir, diciamo, fatto in modo particolare. Gli è un manufatto, capito, no? Della nostra artigianale... No, no, diciamo, che cos'è che dovrei, che cos'è che dovrei apprezzare io? Scusi, Samuele, non ho capito. Allora, lei è un cultore della topa, no? Ma quanto fa? Ma io non sono cultore di nulla, questo lo dice lei, cioè lei è malato di mente, io non sono cultore di nulla. No, non è vero, non è vero. Salvaggia Lucarelli e mi dice. Comunque, vabbè, quella. Ma lei è malato, cioè ma lei che, ma lei è malato. Io l'ho vista scrivere sul Libero, l'ho letta, è veramente brava. E allora che c'entra? Che c'entra? Vabbè, che lei non ha mai avuto, lei non ha mai avuto una relazione con qualcuno? Ma certo, normale. E allora? Mi abbassate, per favore, mi togliete dalle scatole, Parenzo, che sento un rumore dietro fastidiosissimo, non si può ascoltare. Abbassatemi il microfono, che mi ha rotto i coglioni. Samuele, allora, non ho capito. No, allora, io volevo dire, mi è venuta l'ispirazione del processo dei compagni di merende quando il Vanni mostrò, visto di aver avuto dei peli di fia dentro una busta da lettere, no? E il suo amico, il Nesi, disse, oh boh, che tu ne fai? Io ho capito che fanno, capito? Ci fa una bella collana, una bella raccolta e poi gliela regalo. Consento. Ma chi? A me? È una cosa... Certo. Ma ok, ma quello era il mostro di Firenze, Samuele. No. Questa, allora, se tu credi che quello gli è il mostro di Firenze, allora io so pico della Mirandola, santo. Vabbè, comunque era in quel film lì. Gli è una cosa goliardica, scusa. Vabbè. Allora, tutti i figli una bella collana, no? Sì. Io se la spedisco, però la deve essere in purezza, chiaramente. Non si deve parare, tipo peli d'ascello, peli di altre cose, no? Io sto pronto a farmi fare l'esame dalla scientifica. Come un vitigno cru, no? In purezza di peli di fia. Vabbè, però, questo qua lei è da internare. Parenzo, stai sentendo o no? Oppure hai il microfono abbassato? No, a Parenzo non le piace, lui vorrebbe peli di fava, lui, sapete? Come? A proposito, a Parenzo gli piacerebbero mai i peli di fava. No, sto scherzando, ovviamente. Anzi, a proposito di Parenzo... Se vuole resti lì un attimo, che lei sta delirando, dunque mi sembra particolarmente adatto per questa trasmissione. Roberto D'Ancona, buonasera. Buonasera. Io volevo rivolgermi più che altro a Parenzo, più che a lei. Sì, ecco. Sì, sì. Volevo dire a Parenzo che non si agiti, non si scaldi tanto rispetto alla sua frase, quella che ha detto prima, per la quale gli scafisti sanno già cosa potrebbe succedergli in barcaggio. Ma sì, ma non ho detto niente di particolare, no? No, appunto, lei ha detto una cazzata, nel senso, ha detto un'ovvietà totale. Ecco. Esatto. Una cosa assolutamente ovvia. Volevo sapere un'ovvietà e una puttanata. I soldati che ad esempio tornano avvolti nella bandiera sulla uguale, bara, stessa cosa, stessa cosa, certo. Con la differenza che vanno a prendere 6.000 euro al mese. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? C'è un'ovvietà, ma io non ho detto assolutamente sostanziale, perché scusi, lei Roberto, caro Roberto, io non ho detto che dunque devono siccome rischiano è giusto che muoiano. Io ho detto semplicemente No, ma io non sostengo questo. Sì. Però lei si è scordato di elencare magari i motivi per i quali questi si imbarcano. Insomma. Ma ci sono tanti perché motivi. È così un po' parziale. Molti vanno a cercare fortuna rispetto alla miseria che c'è nei loro paesi. Altri fuggono, pochi devo dire, da situazioni di guerra civile. Molti sono abbagliati da guadagni più facili. Altri vengono per... Guadagni più facili rispetto a quali? A quelli che hanno in patria, insomma. Perché in patria quali sarebbero i guadagni facili che possono avere? Alcuni guadagnano... La Libia, l'Egitto... Sì, ma stia tranquillo, Roberto, stia lavoro tranquillo. Con queste persone, quindi ma io non dire, ho detto nulla, non... io non ho nulla contro queste persone, niente. Non traspariva questo, ha dato una notizia parziale. Traspariva, lei che fa, l'indagine psicologica? No, assolutamente. Allora io non ho detto nulla, ho detto che quello che ha detto Boso mi fa schifo, ma non è il caso di dirlo perché è abbastanza evidente, abbastanza scontato. Ma questo lo dice adesso, prima non si era... Ma l'ho detto mille volte, non ha ascoltato lei. Non si è espresso esattamente così. Mi sono... Ma è schifo? No, se vuole glielo dico. Mi fa schifo quello che ha detto Boso. Ha un fisico che forse la surclassa ha avuto paura di dirglielo in diretta, Cosa? Ma ha abbassato il telefono, l'ha sentito o no? La domanda gliel'ho fatta io, ha sentito bene o no? Ma prima che abbassasse ha detto devo dare un po' ragione al signor Boso. Ma era su un'altra cosa, era sull'ipocrisia che c'è in alcuni casi sugli extracomunitari, era la su un'altra cosa. Ma in difficoltà però. Ma io non sono in difficoltà, è lei in difficoltà. No, io per niente. Sì, ma lei non sa come attaccarmi, mi attacca su una cosa scontata che ho detto. No, non la stavo attaccando, peraltro io mi stavo rivolgendo a Parenzo, come l'ho detto. Mi si rivolga a Parenzo, che vuole da me? Ma ha ragione. Ha perfettamente ragione. Ma su cosa ha ragione? Non sai quello che dici. Ha perfettamente ragione, perché prima hai detto se è un'ovvietà, mi dispiace che Cruciani dica anche per ovvietà, perché hai detto una stronzata mega galattica. Dici no, vabbè, ma tanto dico, sei il simbolo del buonismo, dai. prima dici la stupidaggine. Sei il simbolo del buonismo, dai. Vabbè, il simbolo del buonismo, dai. La tua tecnica che è sempre quella. Prima dici la stronzata iperbolica apposta per provocare, poi dici no, ma è un'ovvietà. È un'ovvietà. Allora, se uno dice un'ovvietà, è un'ovvietà. Se uno dice la stronzata iperbolica apposta per provocare, dice ho detto la stronzata iperbolica. Amico mio, io ho detto una cosa. E invece devi avere coraggio. Se hai detto un'ovvietà, hai detto un'ovvietà di una banalità irritante di cui non c'era bisogno. Chi si imbarca sa che può morire. Certo, lo ripeto a voce alta, a voce altissima. È una banalità irritante. Siccome l'hai detta in una posta, in una chiave iperbolica apposta per provocare, è una stronzata. Questo è il dato. Senti, tanto per dire, tanto per no, ma lo conosco il gioco. Ma non c'è nessun gioco, fenomeno. Siccome il meccanismo fenomeno, non c'è nessun gioco, è che io è che non ho bisogno di piante di piagnistei. Non c'è bisogno di piante di piagnistei, hai capito? Ma allora perché? Allora sta tanto vietato. Se tu vuoi piangere, vuoi fare il piagnisteo sulle parole del Papa, fai il piagnisteo. Ma allora che bisogno c'era di dire l'ovvietà? Io dico. Che bisogno c'era di dire l'ovvietà? Ma non è un'ovvietà e nello stesso tempo è una cosa ovvia e nello stesso tempo le cose più ovvie. Le cose più ovvie, no, non è una provocazione. Le cose più ovvie sono quelle che fanno più rumore, capito? Le cose più ovvie sono quelle che fanno più rumore, infatti fanno rumore. Le cose più ovvie sono quello che fa che fanno rumore, perché io non sono. Stai tranquillo, io non so. Ma che cosa facile da dire? Ma che facile, ma non la dice nessuno, tutti lì a piangere, a fare oddio. Dai, su. O è un'ovvietà. Vabbè. Allora, se è un'ovvietà è una cosa facile, quindi passiamo inutile. Ad altro, dai, passiamo ad altro, dai. Passiamo ad altro. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Poi ragazzi, che devo dire? Più di dire che mi fa schifo quello che ha detto Boso qui alla Zanzara. Ripetiamo, se a barcone affonda sono contento. Lo vogliamo risentire ancora una volta? E facciamolo risentire, su. Boso, su domanda mia peraltro, Parenzo stava là a gigioneggiare, tic tic. Mi dica la verità, Boso, allora lei è contento quando un barcone affonda? Sì. Eccolo. Sì, perché pagano quelle persone che giocano sulla pelle della gente. Ma muoiono delle persone, non gli scafisti, vergognati! Oh, che fatica! 800240024 è con noi Giulia Innocenzi, giornalista, collaboratrice di servizio pubblico. Buonasera! Ciao a tutti! Come andiamo? Ma un po' stufi, dai. Di che? Come stufi? Sei in vacanza e sei stufa? Di queste polemiche, vabbè, adesso ho appena sentito quello che avete mandato in onda, ma poi le mie polemiche personali. Cioè, vabbè, no, quello sì. Tutto serio in questo paese sembra impossibile. Vabbè, adesso noi facciamo così, che dobbiamo fare? È dibattito serio. Ma no, non voi, anzi voi state adesso facendo un'operazione verità, immagino che parleremo di quello che mi è successo, siete i secondi ad avermi chiamato, cioè quelli che hanno fatto la prima pagina non mi hanno neanche telefonato. E chi è che ti ha chiamato? Scusa Giulia, tanto per capire. Il resto del Carlino, sezione locale, quindi lode al resto del Carlino e a Cruzzani e Parenzo. Vabbè, adesso non è che, per carità, non è che è un obbligo chiamare Giulia Innocenzi dopo quello che è successo. Però noi... se fai la prima pagina di un giornale, magari vuoi chiedere, ma forse abbiamo capito male, non so. Allora, tanto per far capire ai nostri ascoltatori, c'è un post su Facebook nei giorni scorsi da parte di Giulia Innocenzi che recita in questo modo: di rientro da pedalata Riccione Rimini, dove ho contato una trentina di prostitute. Chissà quanti clienti, magari molti elettori PDL. Meglio legalizzare, riaprire le case chiuse e tirare su qualche miliardino di entrate fiscali. Ma la maggioranza dei politici, come la popolazione che rappresenta, è troppo ipocrita per approvare una misura del genere. Insomma, in sostanza, la cosa come è stata tradotta? Che la maggior parte degli elettori del PDL, o comunque molti elettori del PDL, vanno a puttane. Questa è la sostanza, no? Il modo in cui è stato tradotto, Giulia, così? La tipica strumentalizzazione all'italiana, e quindi non si è parlato più del tema assolutamente cruciale, legalizziamo la prostituzione, invece parliamo della polemica che la Santorina dice che Santorina. Tutti quelli del PDL vanno a puttane. Quanto ti dà fastidio essere chiamata Santorina? Ma è delegittimante. Ma come... no, dai, perché? Ma peggio di Santorina ce n'è un'altra, è la velina di sinistra che... Virgulto del velinismo santoriano, così Mario Giordano oggi, virgulto del velinismo santoriano. Però dai, si gioca con le parole, cioè voi anche a servizio pubblico, ma anche tu, insomma, giocate con le parole, con l'ironia, con la satira. No, però Cruciani si gioca con la delegittimazione, perché quando non si sa rispondere sul contenuto si cerca di delegittimare colui, l'interlocutore. Per esempio, velina di sinistra mi è stata affibbiata inviato da Belpietro, sì, quando in un incontro televisivo io dissi che c'era anche la prostituzione nel giornalismo. Da quella volta ovviamente se l'è presa, se l'è legata al dito e ancora oggi commissiona pezzi. Poi povero Giordano, salutiamolo, da direttore declassato a dover commentare. Ma come declassato? Gli status su Facebook, ma per carità, ma ragazzi, ma c'è la guerra in Siria, ma c'è una rivoluzione in Egitto e la prima pagina di libro deve riguardarsi cavolate. Però scusami Giulia, tu hai detto due cose. Primo, no, no, primo che un pezzo Belpietro gli è stato commissionato, cioè agito, Giordano ha agito sostanzialmente su commissione di Belpietro. Ma primo, il direttore Belpietro, qualcuno l'avrà deciso la prima pagina di questo libro. No, ho capito, magari uno decide di fare un articolo così perché vuole fare una polemica di sua sponte, senza bisogno no, di qualcuno dietro, di un burattinaio dietro. Primo. Secondo, hai detto direttore declassato. Adesso questo, adesso non entriamo nel... Io da direttore preferirei parlare di cose un po' più serie che commentare lo status su Facebook di una persona. Però parliamone allora, perché cosa è successo? Che io ho scritto, fra parentesi, magari molti elettori del PDL vanno a prostitute. Perché l'ho scritto? L'ho scritto perché vorrei sottolineare l'ipocrisia tipica italiana, che diciamo che siamo in favore di una cosa e poi facciamo il contrario. Allora, chi è che ha fatto la legge Carfagna che ha messo come reato la prostituzione per strada? Si chiama Carfagna, la PDL. No, ma su questo possiamo anche essere d'accordo sul fatto che in Italia non ci sono quelli del PDL che vanno a prostitute. Ci saranno. Vabbè, ho capito, ma che vuol dire? Perché uno deve specificare che quelli del PDL vanno a prostitute? È strano. Perché volevo sottolineare la tipica ipocrisia italiana, dove a parole siamo tutti contro, anzi non tutti, i politici sono contro la legalizzazione della prostituzione, perché oggi il Corriere della Sera ha pubblicato una risposta che sul suo sito il 99% di quelli che hanno risposto alla loro domanda, volete legalizzare come in Germania, hanno risposto sì. Sì, certo. 99%. No, ma io sono d'accordo sulla legalizzazione totale della prostituzione. E poi ma anche sulla contraddizione che c'è all'interno del PDL su questo. Ragione, ma questo ragione, è vero, però quando uno specifica, come hai fatto tu, molti elettori del PDL, una cosa sono le posizioni politiche dei politici su cui è giusto infierire ed essere feroci. Una cosa sono gli elettori del PDL. Ma ha ragione. È come se tu dicessi, scusami Giulia, è come se tu dicessi quelli del PDL vanno più a puttane rispetto a quelli di sinistra. No, Cruciani, tu vuoi dire questo se vuoi strumentalizzare il mio pensiero, ma se è scritto nero su bianco, poi ascolta. Allora, qualcuno su Facebook mi aveva scritto, però Giulia non si capisce, ma perché vuoi sottolineare che quelli del PDL... E l'ho scritto! Ho detto, ragazzi, sottolineo quelli del PDL per dire che l'ipocrisia italiana, quelli che sono contrarie... Mica ovviamente Libero si è interessato, Libero ha voluto soltanto creare una polemica inutile. Oltretutto, mio papà vota Berlusconi, lo dico da tempo, lo racconto perché poi i nostri dibattiti a tavola sono molto simpatici. Sì. Mi pare che io potrei mai dire che gli elettori del PDL vanno prostitute? La maggior parte, che ne so, tu dici magari molti elettori PDL, quanti clienti, molti elettori PDL, che ne so, uno ragazzi, ma siamo veramente... Ho capito, però Giulia, ma è vero che c'è anche tu ogni tanto tagli con l'accetta alcune cose e si fanno polemiche su singole frasi, non ti devi stupire di questa cosa qua, cioè mi sembra un po' paradossale che tu ti stupisca, perché si prende una frase che anche, come dire, si deve anche capire, andare lì dentro le spiegazioni, eccetera, facciamo così ogni tanto, prendiamo delle singole frasi e tagliamo con l'accetta. E d'altra parte, magari molti lettori PDL non è che l'ho scritto io. Un attimo solo che c'è la borsa e poi torno da te. La zanzara. Siamo qui, ascoltatori di Radio 24, ascoltatori della Zanzara, 800 24 00 24, Davide Parenzi, collegamento da Roma, sempre da Roma, credo, non so da dove, forse località Roma, di mare, Roma, Giulia Innocenzi, al centro di una piccola polemica, piccola naturalmente perché si tratta sempre di piccole polemiche rispetto alle grandi polemiche che ci sono, però noi ci cibiamo anche di questo, perché un giornale, in particolare Libero, ma non solo, anche Il Giornale, hanno un po' criticato una frase scritta da Giulia Innocenzi, che lavora alla Commissione del Servizio Pubblico, in cui parla una frase di assoluto buon senso, peraltro. Ma tu sei abituato a difendere naturalmente qualsiasi cosa? No, difendo, ma io quando c'è una stronzata detta da qualche amico di sinistra lo dico, poi non so se Giulio sia di sinistra, non mi interessa quello che uno dice. In questo caso è vero che c'è un'ipocrisia pelosa, vergognosa tra quelli va benissimo comportamenti privati di un certo tipo e poi invece c'è la morale pubblica. Vabbè, ma questo qua va benissimo, non è la morale pubblica, ma questo qua lo sappiamo e sono d'accordo anch'io, non è, diciamo, una cosa nuova. russi sono gli stessi che montano le campagne contro il povero Sirkana. Quando si fermò con la macchina a parlare o non si sa fare cose, no, va bene un cazzo, perché l'ipocrisia di questa roba qua, di questo modo di fare giornalismo. Ma il punto non è questo, il punto non è questo. In questa cosa su Facebook, Giulia, c'è scritto o no la parola elettori del PDL che vanno a puttane? Sì, un po' c'è scritto. Ma sicuramente vanno a puttane, sicuramente, questo è sicuro. Giulia, se 9 milioni di clienti di prostitute qualcuno del PDL ci sarà oppure no? Lo escludiamo sì, d'accordo, a prescindere. Però perché specificare gli elettori del PDL? Cioè di, Vabbè, però Cruciani, prima non mai ascoltato, perché quelli del PDL sono quelli della legge Carfagna contro la prostituzione per le strade e non sono per la legalizzazione. Però, ma anche nel PD, anche a sinistra non sono per la legalizzazione, ti segnalo. Alcuni sì, però dovrebbe essere, ma anche nel PDL allora. Dei progressisti dovrebbe essere un po' quello per la legalizzazione, per i diritti delle prostitute. Ma l'altro giorno, Giulia, l'altro giorno alcune senatrici del PD l'altro giorno hanno fatto un progetto di legge, hanno presentato in Senato un progetto di legge per eliminare il nudo delle donne dalla pubblicità. Cioè, ma più bigottismo di questo cosa c'è? Ma no? Ragazzi, nel PD c'era anche la Binetti, però se dobbiamo andare a guardare ma queste sono di sinistra, casi, altro che Binetti. Sono assolutamente d'accordo, ci mancherebbe. Io parlo di una cosa recente, la legge Carfagna è di pochissimi anni fa, ma se ci vogliamo leggermente astrarre, perché un dato interessante invece qual è? È la misoginia totale di queste operazioni di delegittimazione, perché abbiamo già Giordano è misogino? Sì, quell'articolo è misogino. Ma no, Giordano non è misogino, dai, io lo conosco benissimo. Quell'articolo mi vuole dipingere come c'è scritto tre volte che io sarei la velina di sinistra, che addirittura Santoro mi dovrebbe prendere in cura perché non sono in grado di rispondere delle mie azioni, oddio Santoro, salvala tu. E poi una serie di cavolate che io ho smentito più volte, cioè? E qui Giordano dovrebbe risponderne da giornalista, perché tira fuori la storia del Grande Fratello, dice che io ero di AN quando avevo 16 anni, ragazzi, ma visto che diciamo le domande sono sempre più o meno quelle, perché c'è poca fantasia nel giornalismo italiano, ho risposto 150.000 volte, bastava che Giordano scriveva su Google intervista e aveva le risposte. Ma non mi dirai che vuoi portare niente voluto dire che io volevo fare il Grande Fratello, è sempre per l'opera di delegittimazione, ragazzi, basta queste falsità. Ma lo vuoi portare non è che lo vuoi portare in tribunale, no? Cazzo livello. Non è che lo vuoi portare in tribunale, no? Domani ho l'appuntamento con l'avvocato e valuteremo cosa fare. Addirittura, ma è un articolo polemico. Allora, ragazzi, io è da anni che mando giù tutto perché so com'è il giochino, però c'è un limite. Oggi secondo me quel limite è stato superato. Ma guarda che io ho letto attentamente, è un articolo, a parte i fatti che tu citi, può darsi pure che ci sia qualche inesattezza, ma insomma non mi pare sia un dramma il fatto che uno simpatizzava, se è vero, per l'Alleanza Nazionale a 16 anni, non sarà vero, però insomma non mi pare che uno può portare in tribunale una persona perché ha scritto una cosa di questo tipo, però quello sono fatti tuoi. Ma mi pare una cosa di anche la cosa di Santoro che tu dici, lui dice basta con le ferie, bisogna recuperare Innocenzi perché ti sei messo un po' a scrivere delle cose su Facebook. Ma insomma, non mi pare una cosa così misogina, allora, come tu dici. A parte che si vuole dire che io sono alla ricerca spasmodica di visibilità, quella ribalta, eccetera. Invece, guarda caso, spesso e il più delle volte preferisco non parlare quando non ho niente da dire, quindi quando mi invitano eccetera, se ho qualcosa da dire vado, se no non vado. Alla fine del servizio pubblico ho sempre detto no, perché sinceramente non avevo molto da dire rispetto ai temi che mi si invitava, quindi questo smentisce l'accusa, ma questo proprio non ma questa non è un'accusa, questa addirittura Cruciani, a un certo punto fa un giochino Giordano dove dice però forse la Innocenzi evidentemente se ne intende della prostituzione. Meglio fottere, citando il titolo del mio libro, meglio fottere, certo è un'esperienza di vita e anche professionale, ma noi che ci teniamo alla carriera dell'Innocenzi, eccetera, eccetera. Vabbè, quello fa una ironia sul titolo di un tuo libro, meglio fottere. Sì, però andiamo ad analizzare questa ironia e poi vediamo, perché quello che a me stufa è solo che una donna che sta in televisione deve essere bersaglio perché secondo te il fatto cioè, se... questa è misoginia. Misoginia, secondo me l'avrebbe fatto. Tu sei un uomo e non puoi capire. No, ma non è questione di essere uomini. Ma è, no, questione... è semplicemente una roba giornalistica. Secondo me l'avrebbe anche se quelle cose là l'avesse scritte su Facebook un uomo, il risultato sarebbe stato lo stesso. Questo è il mio parere. Però poi allora ognuno... vi invito, per esempio, ad andare a leggere i commenti sul giornale, su Libero, ad articoli di questo tipo. Ma i commenti di chi? Delle persone che entrano là? O qualunque, sì, i commenti dei lettori, per capire lo stato generale del paese in cui viviamo. Vabbè, ma quelli sono i commenti sul libro, ma anche lo sai che io non leggo mai. Vabbè, i degni rappresentanti però danno voce a questa tendenza. Vabbè, ma i commenti, sai quanti commenti ci sono anche sul sito del Fatto Quotidiano? Non è che tu lavori al Fatto, però il Fatto collabora con servizi. Ma guarda che la misoginia è di destra come di sinistra. No, ma sì, ma per carità, ma io, secondo me non ma c'è nessuno. Ti conviene, è più bello che tu combatta come hai fatto questa sera, la querela non serve a niente. Vabbè, ma comunque voi... ma domani vado dall'avvocato e vedremo cosa si può fare, però a un certo punto uno deve dire basta. Ma secondo te, davvero vanno più a puttane quelli del PDL rispetto a quelli di sinistra? No, però Cruzzani, scusa, io ho detto questo nel mio status su Facebook perché anche tu vuoi strumentalizzare quello che ho detto. No, non voglio strumentalizzare, guarda che qualcuno lo pensa sul serio, c'è gente che lo pensa, è per questo che te lo chiedo. No, perché tu c'è mi gente... stai facendo una domanda, c'è gente che va pensa oltre il mio status su Facebook, non che lo certo che mio... va beh va oltre, tu la parole le hai accostate, però d'altra parte mi hai spiegato la ragione, insomma i motivi per cui hai scritto questa cosa. Secondo me c'è un sacco di gente, non sarai tu, che pensa davvero che gli elettori del centrodestra o comunque chi vota Berlusconi sia più, come dire, tendente a queste cose rispetto a parte che non è affatto un reato, non è una cosa negativa, credo anche per te andare a puttane, no? O sbaglio? Ma io sono in favore della legalizzazione della prostituzione. Bene. Come sono le stesse prostitute a chiederlo, e penso che si vada a puttane sia a destra come a sinistra, come a trans e come a prostituti maschi, perché poi ho letto tantissimi bei commenti dei lettori di destra, di Libero e del giornale che dicono beh, però a sinistra invece vanno a trans oppure sono tutti frotti, ragazzi. Vabbè, ma quelle sono un pochino più il livello, però vabbè, ma quello dai. Senti una cosa, ma tu lavoreresti mai per Mediaset, per esempio? Sono curioso. Dovrei molto pensare, dovrei vedere i termini contrattuali. Contrattuali, lavori in una trasmissione, per esempio. No, i termini contrattuali, se hai la possibilità di dire quello che ti pare, di fare la stessa cosa che fai adesso per la 7, io non è che sono ideologicamente contraria, dubito però che ci siano queste possibilità. No, ma invece l'idea proprio di lavorare per una rete di Berlusconi, questo non ti credo. Allora di prendere più soldi possibili per non darli al Berlusca. Cioè, se me danno un sacco di soldi ce vado, questa è la traduzione mia. Tu vuoi tradurre quello che sei. Scusa, più soldi vi danno. La bravura del tuo mestiere, sei bravissimo a. Ma scusa, Giulia, quello hai detto. Ma è quello che hai detto. No. E come no? Se trovassi totale libertà di fare quello, va bene, d'accordo. A Mediaset, allora nel contratto cercherei di alzare la posta il più possibile per evitare margini di guadagno al signor Silvio Berlusconi. Mi sembra totalmente lineare come concetto. Ma no, veramente sono due cose distinte. Che c'entra i margini di guadagno con la libertà? Scusa, sono due cose diverse. Comunque, vabbè. No, sono due concetti per cui io potrei accettare di andare a Mediaset. Cioè, più soldi mi danno, meno guadagna Berlusconi. Dunque, da un certo punto di vista, più si alza la posta, meglio è, giusto? Sì. Vabbè, è uguale. Cioè, io ho tradotto, se mi danno un sacco di soldi, potrei pensarci. La condizione numero due, anzi, o numero uno, è se c'è libertà. E vabbè, quello tanto si dice sempre che c'è libertà. Perché adesso la mia priorità non è lo stipendio, quindi capito, lo metterei come priorità. Perché deve essere sempre la. Fargli arrivare i soldi. Deve essere sempre la priorità, lo stipendio. Sono sempre ancora giovane, non ho famiglia, quindi può non essere la priorità. Abbracci, ciao. Ciao. Pubblicità. La Zanzara. Ma una delle notizie di oggi, caro David, è questa: Emilio Fede ha pensato di farla finita. Lo ha raccontato al settimanale Chi? Ha pensato di farla finita il nostro amato ex direttore del TG4, quando in crisi fisica e psicologica dopo l'addio al TG4 e il coinvolgimento nel caso Ruby, insomma, ha avuto un momento di grandissima depressione e ha pensato di farla finita. Io ovviamente scherzo su questa cosa, anche se bisogna prenderla sempre seriamente, no? Però noi qualche avvisaglia l'avevamo avuta, no? Ti ricordi? Sì, David. Qualche piccola avvisaglia di uno stato psicologico che in quel momento era piuttosto, insomma, piuttosto alterato, sì. Io ancora oggi ho scritto al presidente dell'Impigi che il fondo pensioni, i miei soldi, va bene, li posso avere fra 7 anni, e andate a fanculo tutti. Questa è la verità. Emilio, Emilio, scusa, no, ma no, che... No, vi avete rotto i coglioni, voi compreso. Ma noi no, ma chi... voi avete rotto i coglioni. Ma chi ti ha scritto queste cose? L'Espresso? Mi dicono l'anticipazione dell'Espresso, ma vada a fanculo. L'Espresso è chi fa da capofila all'Espresso, che Berlusconi mi avrebbe dato 800.000 euro. Sì, ma così quale hanno... cazzo dimmi 800.000 euro. Passa in blanco. Io ancora oggi ho scritto al presidente dell'Impigi di liquidarmi il mio fondo pensioni. Quanti soldi deve avere dall'Impigi? Ma quelli che sono solo! Porca la puttana, andate a fanculo! No, Emilio, scusa, ma perché si è arrabbiato con loro? Rotti i coglioni! Siete delle merde! Ma a cercare nel mio privato. Ma noi abbiamo ma noi che c'entriamo? Allora, con questo io ho fatto fare i conti di cosa prenderò a dicembre, fra cazzo sia la tredicesima e stipendio 15.000 euro. Ho rubato! Ma che è successo? Ma scusa, ma andate a fanculo! No, scusa. Ma noi che c'entriamo noi? Tutti voi siete banda di figli di buona donna che avete organizzato il tutto per tentare di distruggermi anche fisicamente. Avete capito? Oggi dice che l'Espresso che Berlusconi mi ha dato 800.000 sì, euro. Mandate a fare in culo! Ma querela lì, mandate a fare in culo! Ma noi siete delle merde! Ma Emilio, ma perché siamo noi? Ma noi chi c'entriamo noi? Ha passato, che ha fatto? Sono cavoli vostri! Porca la puttana, andate a far culo! Beh, diciamo che noi è inutile che chi, no? Questa intervista a chi è abbastanza inutile, devo dire, no? Cioè, noi qualche avvisaglia l'avevamo avuta. Siete delle merde! Ho capito, adesso basta però, vede, abbiamo capito, siamo delle merde, siamo degli stronzi, siamo dei figli di puttana, siamo dei bastardi, questo lo sappiamo perfettamente, no? Giuseppe da Bologna, buonasera. Buonasera. Vada. Guardi, io mi sono sorpreso della banalità, ma forse già gliel'hanno detto, con cui ha liquidato il discorso dei barconi, che si accetta il rischio. Ma io ho detto una cosa tra altre 200 che ho detto. Adesso, giustamente, no, lei si concentra su questa cosa. Va bene, per carità, vada pure. Ma io questo le volevo dire, che mi sorprende perché ogni volta che un suo interlocutore dice una banalità, viene smontato nel suo pensiero. Ma lei mi smonti, quindi... lei mi smonti, ma abbia la forza di smontarmi, avanti. Ma per esempio, come fa un perseguitato nel proprio paese a ricevere un diritto naturale che è la vita? Sì, un perseguitato. Lei già sta dicendo che tutti quelli che vanno sui barconi sono perseguitati. No, vabbè. Io non sto dicendo questo, non mi dica che io dico. Io ho detto semplicemente una cosa. Io ho detto una cosa. Sì. Che possono morire lungo quel tratto di mare solamente perché stanno sfuggendo dalla persecuzione. Io non dico no, che sono tutti ci sono. Allora, ma probabilmente la maggior parte è perseguitata. Ma non è vero. Dalla fame, sì. Se lei deve sapere che se uno Stato riceve soldi per i diamanti, per il petrolio, per qualsiasi cosa e affama la popolazione, è una persecuzione politica, sì. Guardi, perché è un modello sbagliato. Allora, Giuseppe, io ho detto una cosa, lasciamo perdere i motivi per cui queste persone scappano. Sono sicuramente motivi gravi, persone vanno a cercare fortuna in Italia, cercano di guadagnare di più, vogliono vivere meglio, eccetera. Ci sono anche degli emeriti delinquenti, come succede dall'Albania, no? Dall'immigrazione di un altro tipo, ma anche dal Nord Africa. Il punto è un altro. Io ho detto una cosa semplice. Ho detto che chi si imbarca su navi di questo tipo si assume un rischio, ed è il rischio della morte. Questo ho detto, il rischio del... Ma è una banalità. Ma sarà una banalità, ma è così. È così. Ma allora, se fosse una banalità, perché lei si incazza? Perché si incazza? Perché si incazza se è una banalità? Se fosse solo una banalità, perché si incazza? Spesso le banalità. Ma è una discussione che tiene per radio, e quindi i messaggi che mi manda È una banalità, non si può continuare. Fosse solo una banalità, fosse solo una banalità. Ma devi dire che è una frase razzista. Ma che razzista. Ma che razzista, ma smettetela. Per il gusto di provocare, ho detto questa cosa. Daniele da Ravenna, su, Daniele da Ravenna. Grazie, Giuseppe, grazie. Solo per il gusto di provocare, ho detto questa stupidaggine. Ma stai zitto, Daniele da Ravenna. No, questa è la ragione vera, la gente lo sa. Solo per provocare. Ma figurati. Ma figurati, ma quando mai? Daniele da Ravenna. Il coraggio di dire così, solo per è una pura e stupida provocazione. Vabbè. Pronto? Sì, Anto. Buonasera, anch'io volevo intervenire sul discorso di Bosso e dico una cosa da siciliano. Basta questo buonismo, perché come ha detto Bosso, lo pensa il 90% degli italiani. Beh, insomma, non esageriamo. Io dico una cosa. Cioè, lei dice allora, che il 90% degli italiani è contento quando affonda un barcone? Io dico una cosa, non dico che sono contento che affonda un barcone, ma che non me ne frega un cazzo. Ma perché nessuno pensa ai lampedusani che vivevano di turismo e hanno perso il 90%? Beh, questo è interessante, Daniele. Lei sta dicendo che al 90% delle persone non frega un cazzo quando affonda un barcone. Sì, e secondo me è esattamente come dice Daniele. È esattamente quello che dice Daniele. È così. Che tu lo voglia, Parenzo, no, è così. Non gliene frega un. E anche a te. No, e anche a te. Tu roba. Sei totalmente indifferente come gli altri. Ma non lo vuoi ammettere. Non lo vuoi ammettere. No. Sì. Gioco a questa cosa. Ma che non giochi? Allora, Parenzo, non gioco a questa cosa. Quelli tutti buonisti, portateveli a casa. Perché i lampedusani ne hanno le palle piene. Non vanno più in turismo. Hanno messo il 95% del turismo, stanno morendo di fame. Voi sapete che a Lampedusa non si possono più neanche stendere i panni fuori, che se li fregano. Hanno rotto il cazzo, devono stare a casa loro, perché sanno che cosa vanno incontro. I lampedusani ne hanno le palle piene, te lo dico da siciliano, ne abbiamo le palle piene. E voi che siete buonismi, portateveli a casa. Parenzo, che fai? Non rispondi? Parenzo. Io non rispondo a questa roba. Ma rispondi, affrontala, no, combatti. No. Non c'è un gioco su tutto. Ma che vuol dire gioco? Stai combattendo su un argomento, ma che dici? Non si gioca su tutto. Ma che significa? Ma che significa? Ma affrontalo, argomenta, che fai? Ti ritiri? Io non affronto le bestialità. Ma vai, su. Uno dice bestialità, ma io non lo affronto. Vabbè, non lo affronto. Uno dice bestialità, non lo affronto. Vabbè, ma sei un uomo finito. Perché ha detto una bestialità. Cioè? Non ho capito. Che cosa ha detto? Cosa ha detto? Ha detto della bestialità. Lascia perdere le sue opinioni. Ha detto una cosa molto semplice. Che gli italiani, secondo lui, gli italiani, sono totalmente indifferenti all'affondamento dei barconi. Stai attento. Non c'è nessun argomento. Non si può discutere. Non è una roba. Non si può discutere. Allora fai le tue discussioni filosofiche. Vai. Poi continua a fare le tue discussioni filosofiche. Ma non è vero. È vero quello che dice. Purtroppo è vero. Purtroppo è vero. Io non ho detto che sono d'accordo. Purtroppo è vero. E riguarda anche te, e riguarda anche ma te, perché tu no. Guardi quella roba lì, così, guardi l'affondamento, perché non c'è nulla da replicare. Guardi l'affondamento di un barcone, ci pensi un secondo e poi il giorno dopo già te lo sei dimenticato. Ma assolutamente no, perché sì, vabbè. Traffico. La zanzara. Antonio da Roma, buonasera. Ci siamo, buonasera. Eccoci. Io volevo dire semplicemente questo, ma chi ha scelto Parenzo per fare chi compagnia? Chi ha scelto Parenzo? Il sottoscritto, perché? Qual è il problema? Adesso è tutto chiaro, sì. Ho capito benissimo. Ma che ha capito? Non ha capito niente. Perché c'è una persona che non riesce a gareggiare con la sua dialettica. Non ho capito, scusa. Si è scelto una persona che non riesce a pareggiare la sua dialettica, non riesce a tenerli pari. Ma guardi, non è questo il punto, lei non ha capito nulla. Come non è questo il punto? Ma non ha capito niente, ma è normale, a quest'ora lei alle 20:21 avrà già bevuto sicuramente, ma non c'è ha dubbio. Già bevuto, no, questo è un dato di fatto perché lo ascoltiamo tutti i giorni, quindi non c'è poco da controvertire su questo fatto. Poi secondo me il problema è che lei è un po' invidioso, l'ha scelto apposta così. Io sono perché invidioso di chi, scusi? Invidioso di chi? Perché lei essendo un po' bruttino, sì. E Parenzo invece è più presentabile in televisione, sì. Lei non potrà fare mai televisione, invece Parenzo l'ha potuto fare. Sì, cioè io sarei bruttino, io sarei bruttino e Parenzo diciamo presentabile, quella è la cosa. No, per carità, va bene, Parenzo è presentabile. Parenzo... Se facciamo delle domande, ma penso che sia una cosa la palissiana, cioè, è troppo semplice dire questo. Sì, ma un po' troppo semplice cosa, Antonio? Cosa troppo semplice? E lei, un po' tutti io e Parenzo è più io presentabile. Parenzo è più presentabile, va bene, ma... Come Parenzo è a meno dialettica di lei, cioè... Ma non ci sono, guardi, sui gusti non si discute, come dire, se a lei piace Parenzo... Ma lo sai come si dice lei? non è bello ciò che è bello, ma che bello. In questo caso sì. è brutto. Capito? Sì, sì. Ha parlato chi è? Alain Delon qua, Antonio da Roma, Antonio Delon. Antonio Delon. Quindi il problema giustissimo. Antonio Delon. Antonio Delon ha parlato. Vorrei vedere una sua foto, caro Antonio. Vorrei vedere una sua foto, caro Antonio. Una sua foto, Antonio Delon. Quando vuole la fai in privato però. Antonio, no, in privato no, guardi, non si preoccupi, in privato no. In privato. Allora come dobbiamo fare? Mi dispiace. Io posso la mia foto. Mi dispiace. Io non sono un personaggio politico, comunque sono un po' in vista anche Antonio De Longo. È in vista in che senso, scusi? È sempre un po' in vista, insomma, perché non sono completamente sconosciuto. Che fa nella vita, scusi? Non ci casco nel trabocchetto. È lei che l'ha detto, mica io. Cioè... No, io le dico comunque semplicemente un dato di fatto che lei è un po' bruttino. Ma sì. non è, mica sto dicendo che è bruttissimo. Non è che è bruttissimo, è un po' bruttino. Bene. Cioè, in televisione non è che fa la bellatura. I gusti sono gusti. Franco dalla provincia di Catania. Allora, buonasera signor Cruciani. Senta, sì. Volevo dire due cose se possibile, velocemente, così non gli faccio perdere tempo. Sì. La prima, per quanto riguarda quello che ha detto il Papa, io tutto rispetto, però insomma solidarietà, democrazia, benvenuti tutti, le persone appunto di extracomunitari, però quando poi devi entrare al Vaticano, se non gli lasci il documento, se non gli dici che cosa devi fare. Io per esempio. Ma non ho capito, scusi, è normale che per entrare in Vaticano ti lascia i documenti, che fai? Entri così? Sì, no, però per dirle, voglio dire, qui allora a noi ci dicono: ah, dovete accettare tutti, devono venire. Ma anche in Italia, per entrare in Italia devi presentare i documenti, sì, se non sei di Schengen. Il Vaticano dovrebbe fare. Comunque, vabbè, io. Vabbè, ma questa qua è davvero una stupidaggine. Ha ragione. Ma come lei dice una cosa e poi si auto bacchetta. Adesso pensandoci, beh, come ha fatto terapia, no? Una fisioterapia, poi uno si rende conto. Senta, un'altra cosa che volevo dire. In effetti, pensavo, quando purtroppo lo Stato è assente per quanto riguarda gli extracomunitari e lascia che i problemi vengano risolti dai cittadini, ecco perché lì poi succede, nasce la forma di razzismo. Perché io, per esempio, a volte abitando a Roma, in periferia, quando molto spesso ci sono gli extracomunitari e non c'è un controllo, è chiaro che questa situazione scaricata ai cittadini, è ovvio che poi si scatena in maniera negativa. Capito? È questo. Quindi, secondo me, io penso che lo Stato non dovrebbe lasciare al cittadino queste problematiche. Vabbè. Dovrebbe intervenire. Franco, grazie, ho capito, anzi, non ho capito un cazzo. La zanzara stronza. Che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. Ma tu non sei curioso, David, di capire cosa sta facendo in queste ore, cosa sta maturando in queste ore, dove il PDL e i massimi vertici del partito di Berlusconi difendono il capo dopo la decisione della Cassazione di decidere sulla vicenda Mediaset il 30 di luglio. Giustamente Belpietro scrive, il direttore di Libero: siamo alla fretta, dicendo, no? Hai capito? Sì, il gioco non di parole. Alla frutta. Esatto, alla fretta. Cosa sta facendo? Sei curioso di sapere cosa sta facendo l'esercito di Silvio o no? Ma francamente non è tra i miei primissimi pensieri di queste ore. Però secondo te sta montando qualcosa, sta crescendo qualche iniziativa, sì o no? Secondo te, così a occhio, a orecchio. Beh, adesso voglio dire, sì, può essere che qualche iniziativa sicuramente la staranno mettendo in campo, elaborando, questo sicuro, questo gruppo di pensatori. Generale Furlan? No, sono il comandante in capo, che generale, scusi. Scusi, buonasera. Simone Furlan, che è comandante in capo dell'esercito di Silvio, incomincia, credo, proprio in queste ore una grande mobilitazione, o sbaglio? Noi siamo, guardi Cruciani, in questo momento davanti a un gruppo nutrito di sostenitori del presidente che stanno facendo un applauso e sono in diretta con loro. Capito, Parenzo? Una cosa pazzesca. Ma quanti siete? 10, 15? L'applauso? Quanti siete? Sì, l'abbiamo sentito. 10, 15? Quanti siete, Furlan? 10, 15. Vi spazziamo via tutti nel giro di due mesi. Ma chi spazzate via? Chi? Anche Parenzo, perché Parenzo è di sinistra, io lo so. Vabbè, ma non è che uno deve essere spazzato via perché è di sinistra. Che volete fare? È di sinistra, così. È lo Stato dittatoriale. È stata scritta una pagina vergognosa della nostra Italia. Ci siamo rotti i coglioni di questo tipo di attacchi e del fatto che vogliono far fuori il nostro presidente attraverso non l'uso politico, ma attraverso quella che è la magistratura. Basta, è arrivato il momento che la misura è colma. Benissimo. Allora, siccome la misura è colma, l'esercito che la fa? La misura è colma. l'esercito innanzitutto finisce quello che sta facendo, cioè di costruire una rete che lavorerà al fianco del presidente. Ma io credo che il PDL debba dimostrare di avere le palle e debba immediatamente far cadere questo governo ignobile che non sta facendo niente per l'Italia e che non sta soprattutto facendo nulla per le nostre piccole e medie imprese, ma stanno facendo i rimandi di ora in ora. È una vergogna. Finti sotto. Ma che ci sono gli applausi finti sotto? Ma come nei telefilm di Arnold, dei Robinson. Venga qua, Luciani, venga qua. Ma dov'è lei, Furlan, comandante in capo? Dov'è lei? Dove si trova? Sono a Catania, nell'azienda di un bravissimo imprenditore che ci ha ospitato e ci siamo riuniti con i reggimenti che si sono attivati su Catania. Ma dai, reggimenti su Parenzo, di qualcosa, i reggimenti su Catania, dai, su. Ma Parenzo come vuole reggimenti, che capisce di cose reali, in quelle sitcom americane dove a un certo punto uno, il comico, il guitto, fa la battuta e c'è l'applauso sotto finto registrato. Parenzo, lei non ha nessuno che applaude, neanche nel suo programma schifoso che tiene su Rai 3, io invece... No, che applaudono i reali, senti dietro. Ma non ti difendi nemmeno quando ti attacca così Simone Furlan. Ma io mi dico quando c'è un interlocutore, ma quando non essendoci un interlocutore come puoi parlare con nulla? Ma scusa, per te non c'è mai un interlocutore. Io e lei nel suo programma quando vuole. Ma non c'è più il programma, è questo il punto. Io non lo reputo un interlocutore. Benissimo. Non lo reputo una persona normale, una persona con cui si può confrontare normalmente. E invece cos'è? Non è una persona con cui io non mi posso confrontare. Ma se ti sei sempre confrontato con Furlan e con gli altri, adesso che ti hai preso, non ho capito. Uno che dice di essere il comandante dell'esercito di Silvio, ma va bene in un programma comico. Vive nell'Italia reale, stiamo vivendo una guerra alle aziende, dobbiamo combattere, difendere il presidente che ce lo stanno facendo fuori, ma capisci che non ci si può, cosa si risponde? Scusi, Furlan, o chiamando la forza pubblica o chiamando l'ambulanza. Ma non ci puoi discutere, mi dispiace. Va bene, abbiamo la borsa, torniamo. Furlan, resti lì, Parenzo, però se uno attacca, di solito una persona risponde, non è che uno può rispondere così. La no, ma... rispondere vorrebbe dire riconosci dignità. Ho capito, ma certo che riconosce dignità, e l'ho invitato al programma, riconosciamo dignità. E io non gli posso riconoscere dignità. Vabbè, allora vai a fare un programma da un'altra parte. La Zanzara. Ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrai... Sempre gli ascoltatori di Radio Padania trionfano qui alla Zanzara. Ti voglio far ascoltare questa roba qui, spero che capiti un cabobo a quelli di sinistra. Meraviglioso questo qua, senti. In più questo gesto non sconsiderato, perché bisogna pensare alle ricadute. Questi qui adesso pensano veramente che hanno proprio avuto hanno avuto effettivamente la benedizione, quindi si muoveranno in migliaia. Io spero che quei tizi che vanno in giro, quei ben pensanti della sinistra, poi si trovino qualche cabobo in giro e poi rideremo. Che noia che è, e la zanzara che succhia il tuo sangue, va via, e la zanzara che ha... Vogliono invaderci, lasciano il cibo sui barconi. Oggi su Rai 2 hanno fatto vedere l'ennesimo sbarco, e sul fondo della barca c'erano un sacco di derrate alimentari, pacchi ancora quasi integri di roba, li hanno abbandonati tutti lì. Dico, questa gente che è scesa dalle barche era bella in carne, secondo me, non ho visto gente patita, hanno abbandonato il cibo. Dico, uno che ha fame, una scatoletta di carne, un pacco di biscotti, se lo mette sotto il braccio istintivamente, non lascia lì la roba da mangiare. Questi non hanno fame, il problema è un altro, ci vogliono invadere, Padania libera. Non rilassarti mai, lei non dà tregua, sai, finché non tu. Beh, sarebbe curioso, Parenzo, se si potesse utilizzare l'esercito di Silvio per proteggere le nostre coste, no? Che dici? Beh, sarebbe curioso, sarebbe grottesco, come la Guardia Padana. Come utilizzare la Guardia Padana? L'unica cosa utile per fare la Guardia Padana è ripulire i boschi del nord, dove ci sono magari tutte le cartacce per terra. L'unica roba utile che potrebbe fare l'esercito di Silvio, appunto, quello di aiutare a raccogliere l'immondizia nelle città, a Napoli ad esempio, potrebbero andare a Napoli. Furlan, perché non aiutate a raccogliere l'immondizia? Dove serve? Penso ci si deve temere per le nostre idee e non per queste cazzate che dice. Io voglio una cosa fondamentale, Cruciani, sì, che immediatamente il PDL dia una dimostrazione di essere un partito e di capire che sono lì tutti quattro zucche vuote grazie a Berlusconi. Quindi si dimettano immediatamente, facciano cadere questo governo, si vada ad elezioni e noi stiamo costruendo Forza Italia. Questo l'abbiamo capito. Per riformare la giustizia. Questo l'abbiamo capito, voi volete cacciare tutti da Forza Italia, ma sto esercito quando entra in azione sul serio? Cioè in che modo entra? Siamo già entrati in azione. Ma come? In che modo? Strutturiamo una cosa meravigliosa, cioè, dal basso. Fatta se di condannano Berlusconi all'interdizione, se condannano Berlusconi all'interdizione, che fate voi? Prendete non, le armi? Non potranno mai condannare Berlusconi all'interdizione. Ma come no? Come no? Perché noi lavoreremo per lui. Sì, ma come costruiremo una forza che comunque difenderà sempre Berlusconi? Ho capito. Ma che fate? Prendete le armi? Che fate? Ma cosa c'entrano le armi, Cruciani, su? E che ne so, come fate a proteggere? Quella che stiamo dimostrando, che stiamo facendo quello che il PDL non ha mai fatto, ci stiamo strutturando sui territori, siamo espressione della gente. Vabbè. Questo dovete capire. Parenzo, hai paura? Cosa c'entrano le armi? Espressione della gente. Ma no, non ho paura, mi viene da ridere. È una anche è grottesco. A me fa ridere. Ma è neanche un film di Tognazzi, era divertente, questo è come dire, vogliamo i colonnelli di Tognazzi, era un film divertentissimo, questo diventa, vuol dire, una caricatura drammaticamente politica di uno che pensa veramente di far sul serio. Ho capito, fatta delle robe utili. Se il tribunale di Milano il paese reale non lo conosce, stia zitto. Ma vada Furlan, perché non utilizzate davvero questa forza, questi reggimenti, no, forza per andare nelle città a ripulire le strade? Questo sarebbe interessante. Cruciani, se viene anche lei con noi a pulire le strade, lo facciamo volentieri. Ma io che cazzo c'entro? Scusi, e voi avete fatto l'esercito, mica io. Cioè, l'avete fatto. Non ho capito perché noi dobbiamo ripulire le strade. Perché ma se uno, se uno si proclama esercito. Noi siamo l'espressione del centrodestra nuovo che verrà, sì, e che spazzerà via i vecchi. Ci stiamo strutturando sui territori e lavorando con la gente. Chi è reale, che non sopportate? Che ad esempio, fare. Gasparri, Cicchitto, li sopportano questi qua, che fine devono fare? Gasparri, Cicchitto, ma non è una questione di nomi. No, guardi, no, faccia i nomi, abbia la forza di fare i nomi, abbia il coraggio di fare i nomi, Furlan. Beh, scusi, sta parlando con uno che ha detto che Alfano deve immediatamente dimettersi dalla segreteria, vuole che non faccio i nomi, sono stato il primo a dirlo. Appunto, faccia i nomi di chi deve essere cacciato via a pedate nel sedere, tutti secondo lei. Tutti devono fare un passo indietro. E Berlusconi deve dire chi sono le persone con le quali noi, vabbè, che stiamo costruendo una sì, passo, i reggimenti per la nuova forza. Ma quanti reggimenti siete? 330 registrati sul sito regolari. Reggimenti. 330 reggimenti. Reggimenti. Persone o gruppi con gruppi di persone. E la Santanchè la vorreste come capo dell'esercito di Silvio, la Santanchè? Guardi, io credo che la Santanchè abbia dimostrato, pur sì, venendo da M, di essere stata molto più fedele, di aver difeso sì, molto di più il presidente Berlusconi che i quattro zucconi che invece Berlusconi ha portato là. Benissimo, quindi, allora certamente meglio di altri. Benissimo, allora perché non la fate generalessa, la pitonessa a capo dell'esercito di Silvio? Sarebbe straordinario. Guardi, glielo proporrò, cosa vuole che le dica, sentirò, non lo so, io non che so, ruolo potrebbe avere? Ho. Un generale donna, una la pitonessa generale donna. Parenzo, è divertente pure questa cosa, no? Perché? Che è? Beh, perché, voglio dire, in un paese normale tutta questa roba qui verrebbe liquidata come una risata in un giornale satirico, se ci fosse cuore. Ecco, il Vernacoliere che esiste, sì, il Vernacoliere potrebbe titolare l'esercito di Silvio e la pitonessa, è un titolo Parenzo, perfetto. In un paese normale non c'è una giustizia a due velocità, che e questo si tratta di Berlusconi, e la cosa drammatica di questa persona qui esiste veramente. Tu. Con gli applausi e gli applausi. Applausi sotto. La e gli applausi perché non li ho mica pagati, venga no, qua Cruciani, c'è il Corriere no, della Sera che vi sta riprendendo, lo vedrete. Come il Corriere della Sera? Che c'entra il Corriere della Sera? Abbiamo il Corriere qui che sta riprendendo e sta riprendendo ma in diretta la forza perché riprende il fenomeno da paragone reale. Che dici, ma Parenzo? È evidente, ma no, ma il Corriere della Sera va a riprendere anche i comizi di Beppe Grillo, giustamente loro inseguono notizie e anche cose di colore. Lei sta dicendo, Parenzo, che il Corriere va a riprendere i ridicoli? Siamo tutti no, ridicoli, non solo, ma anche in un giornale c'è spazio anche per le notizie di alleggerimento. Morale. Che voi detto? Siete una notizia di alleggerimento cosiddetta, io la metterei tra le brevi o tra le comiche, ma evidentemente è un'altra cosa. Vabbè, Furlan, Parenzo, ho più gente io stasera di quella che ha guardato il suo programma, comunque quando vuole ci confrontiamo. Vabbè, Furlan, la Sant'Anchè, sì, la promuoviamo generalessa o no? La chiamerò e dirò che Cruciani la vuole promuovere. No, io non c'entro niente. Ah, se, no. È lei, no, che la deve promuovere, Furlan. Io voglio Cruciani, gliel'ho già detto. No, ma io faccio un altro mestiere, Furlan, abbia pazienza. Ma cosa c'entra? Tutti fanno un altro mestiere. Ma io faccio un altro mestiere, faccio giornalista, lei è un cultore del mito di Berlusconi, è una cosa un po' diversa, cioè. Ho capito. Il tuo pensiero è importante. Ma io non sono cultore di un cazzo. No, avete scelto la persona sbagliata. Io odio le idolatrie. Vabbè. Non le sopporto. La ringrazio, ecco. Furlan. A presto. Grazie, a presto. Buona serata. Zanzara! C'è una zanzara. Va bene, Gianni da Savona. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Vada. Beh, una cosa curiosa, prima sentivo nell'intervento, l'intervista, no, che quelli di destra vanno, diciamo, a prostitute. Questo non solo può avvallare questa teoria, però, fatto realmente accaduto, dopo una telefonata fatta di questi numeri hot, la ragazza che dall'altra parte ha chiesto a me, scusi, lei per... eravamo sotto elezioni, parlo di qualche anno fa, mi dice, scusi, lei per chi vota? Io lì per lì, senza problemi, ho detto, per Berlusconi. E poi però a me è venuto a chiedere a lei, scusi, per chi mi fa questa domanda? Lei mi fa, no, sto facendo un sondaggio da quelli che mi chiamano e ho scoperto che quelli, chiamiamoli pippaioli, sono votano per Berlusconi. Ma chi? La risposta di questa qua? Esatto, la risposta della ragazza. E che aveva fatto un sondaggio questa qua? Sì, esatto. Ma dai, Gianni, su, non diciamo stupidaggine. Non so che sembra una stupidata, anche a me sembra una stupidata, mi sono fatto una grossa risata, come se la fa lei e chi ci sta ascoltando. Però ci sono rimasto male perché non mi aspettavo, ma neanche chi si va a immaginare una domanda di questo tipo. Ma ha fatto la domanda, ma comunque è molto semplice, potete fare finta, mettere qualcuno a un numero hot, far finta, fare questa domanda, avrete anche voi un sondaggio, poi non so se sia vero o no. Più che altro, a parte se è vero o non è vero, che questo poco conta perché insomma sono chiacchiere, sarebbe interessante capire invece quali sono le... Scusi, ma perché lei ha fatto sta telefonata hot? Questa è secondo lei perché? Perché in quel momento ero curioso di fare una telefonata di quel tipo, l'ho fatta ed è stato divertente, però ha tolto il divertimento. Ma che ha fatto in questa telefonata? Non ho capito. No, perché l'aspettavo al varco. Cioè, ha fatto sesso? No, non ho fatto sesso. Sto carino, questa ragazza che provava ad incitarmi a fare sesso, no? Come quando accadono in queste telefonate. A me personalmente poi la cosa mi ha divertito perché era più una curiosità che la voglia vera di fare sesso, perché non avevo neanche idea di come potesse essere, se poteva realmente poi. Ho capito, ma l'ha fatto o no? Non ho capito. No, non l'ho fatto. Volevo farlo. Ho provato per capire se era fattibile farlo. Però ma non si è eccitato. No, io no, poi probabilmente se ci sono ovviamente funzionano, però io no. Ma tolto questo che conta zero, la domanda invece è diversa, è: ma se quelli di destra, tra virgolette, vanno, sono così attivi sessualmente, in termini di in politica, cioè può essere un bene o un male questo aspetto? Cioè, ma che ne so, questo è una domanda in più. Però fatelo sondaggio, potrebbe essere interessante vedere se è vero questa cosa. Alessio, magari... dalla provincia di Pistoia, grazie. Alessio. Pronto? Dica. Sì, buonasera. Volevo confermare quello che diceva il signore prima di me. Anch'io, nella mia piccola esperienza, devo riscontrare che ho lavorato in fabbriche con numerosi dipendenti e generalmente i puttanieri sono persone di destra. Ma dai, su, non diciamo stronzate, dai, forza. Sì, è una stronzata, e questa però è la mia esperienza. Questo è, come è una mia esperienza che le persone di sinistra sono d'accordo sull'aborto, sulla legalizzazione dell'aborto, sul divorzio. Ma non possiamo fare queste distinzioni assurde, è una cosa folle. Non sono distinzioni assurde, sono situazioni che io riscontro, poi magari nella massa è una stronzata, però nella mia esperienza io riscontro questo. Traffico, torniamo subito. La Zanzara. Roberto da Roma, Roberto, buonasera. Pronto? Pronto, buonasera, dica. Posso parlare? Allora, intervengo brevemente, non tanto per dare ragione a lei, ma perché ha detto una cosa giustissima sui barconi. Chi si imbarca in questi barconi lo fa per una sua libera scelta, punto. Scelta che arriva, anche... Pronto? Pronto? Pronto? Parenzo? Sì, pronto. Saia, chi è? Io Saia sono, chi parla? Saia? Sì, no, mamma mia. Chi parla? Parenzo, c'è anche Parenzo. No, non ci sono io. Chi è Parenzo, scusi? Parenzo, ma sai, ma perché? Ma che è successo? C'è stata un'interferenza? Vabbè, comunque. Ma lei che è Cruciani? Sono Cruciani, buonasera. Cruciani, buonasera. Ma sento dei ronzì, ma non vi danno del ride qualcosa lì in redazione, scusi? Che c'hanno il... Dico, in redazione non vi danno del vapore, disinfettante. Del vapore, no. No, non ci danno. Sento dei ronzì, che sono zanzare, pidocchi. No. Chi è? Ancora Parenzo? Vivo. No, ma Parenzo... Non lo so, sento un ronzio di pidocchi. No, pidocchi no, assolutamente. No, non ce n'è pidocchi, va bene. No, siamo tutti tranquilli, non c'è bisogno di disinfestazione. Morirono fanciulli tranquilli. Sì, adesso morirono fanciulli tranquilli. E dice tranquillo l'ultima volta. Fanciullo. Parenzo, che c'hai? No, niente, tutto a posto. Tutto a posto? Che sulla Rai Parenzo fa tutto l'educatino, no? L'ha visto sulla Rai? Eh sì, là con la signora di Cuneo, quella senza mutande e col finocchione là che si sono presi. Ma finocchione, signora. Ma dico, lei che è un giornalista di grido, lei dovrebbe fare queste trasmissioni. Di grido. Lo raccomandano i suoi amici ebreucci. No. Sono felice perché si becca due querele anche oggi. Sì, ne faccia quattro, Parenzo. Saia. Mi dica, tranquillo perché anche oggi si becca due querele. Sì. Le cose gli ebreucci, no. Allora io le chiedo una cosa. Lasciamo perdere Parenzo sulla Rai che già lei ha detto quello che doveva dire già oltre. Il Papa è venuto in terra sua, in Sicilia, signor Papa. Signor il mio Papa. Bergoglio. Sì, suo amico, insomma. Adesso non credo che Bergoglio sappia che lei dice, no? Di essere suo amico, giusto? No, io ero amico di Ratzinger, veramente. Ma amico, insomma, bisogna vedere. Saranno fatti miei, sono amico di Ratzinger, scusi. Sì, vabbè, ma non sarà vero. Vorrei mettere in dubbio che io sia amico di Ratzinger. Ma no, ma non è assolutamente vero, lei non può essere... Ma lo dice lei che non è vero. Ma si figuri se lei è amico di Ratzinger, su, vabbè, dai. Saranno fatti miei. Vabbè. Andiamo al sodo, mi dica cosa no, fa. Voglio dire, è venuto là a fare, come dice Parenzo, spiega cosa ha fatto... Non spiego niente a quell'essere lì. Sì, ma io concordo con quello che dice il signor Bergoglio, infatti dovremmo organizzare un servizio navetta per portare tutti questi signori dentro il Vaticano. Ma scusi, questa qua però non è che concorda con quello che dice Bergoglio, lei sta criticando il Papa. Io perché? Io critico il Bergoglio, perché lo critico? Ma lei sta criticando dicendo organizziamo una navetta per portare tutti al Vaticano. No, ha ragione, dovremmo fare una cosa più interessante invece. Cioè che cosa, sai? Vediamo. Questi signori, che speriamo che ne arrivino tanti, sì? Che in Italia abbiamo mancanza di materie prime. Sì, e cosa faremo? Li concentriamo e facciamo saponette, profumo d'Africa. No, sai, adesso mi è scappata una risata a fronte di questa bestialità che lei ha detto. Ma dai, tante belle saponette. Ma dai, sai, su, ma non si può reagire in questo modo, le saponette. Non si può reagire in questo modo. Ma che vuoi? Ma lei dovrebbe andare in... Ma lei dovrebbe andare in... L'italiano muore di fame, il signor Bergoglio viene a pontificare. Forse il signor Bergoglio ha dimenticato che già una volta l'esercito italiano è entrato a cannonate in Vaticano. E mi sa che la situazione non è tanto bella, caro amico mio. Cioè, non ho capito, lei vorrebbe bombardare il Vaticano. No, io ho detto semplicemente che già una volta l'esercito italiano... Cioè, adesso facciamo il golpe al Vaticano, lei organizza il golpe al Vaticano. È entrato... Ma è una cosa da operetta. Beh, a Porta Pia e Bersaglieri a cannonare. Beh, appunto, Porta Pia era anche, come dire, il secolo scorso, no? Che vabbè, anzi. Il secolo scorso non è che sia passato tanto. Dunque? E poi il signor Bergoglio, tanto amico della giunta militare in Argentina. No, ma quelle sono stupidaggini, su. Ma quale stupidaggini? Quelle sono stupidaggini. Ma quale conclamato? Ma quale conclamato? Ma quando? Comunque... Che c'è? Che sta facendo? Parenzo, che stai facendo? Scusa. No, sto parlando con gente molto più interessante di quello lì, che non ho ascoltato niente di quello che ha detto. Grazie, ah, non hai ascoltato nulla? Nulla, non mi interessa niente. Ha detto che lui farebbe degli immigrati delle saponette. No, non ho detto questo, lei veda, mi mette in bocca parole che... Ma no, lei questo ha detto. Che no, io non c'è neanche da discutere. È opportuno. No, lei va arrestato. Saia, lei va arrestato. Diciamo la verità, lei va... Perché no? Perché non l'hanno ancora arrestato? Io questo mi stupisco. Anche il Führer fu arrestato. Appunto. No. Prima, ma lei dovrebbe essere orgoglioso se l'arrestano. Lei dovrebbe essere orgoglioso. Se mi arrestano per queste cose io sono orgogliosissimo. benissimo, non ci sono problemi. Cioè, il problema sarà quando io poi esco e faccio arrestare Parenzo. Ma questo mi pare impossibile adesso, francamente. Non lo so, sa. Ma perché dovrebbe essere arrestato Parenzo, scusi? Perché lo stesso motivo perché dovrei essere arrestato io, scusi. Perché io dovrei essere arrestato? Per quello che dice, lei sta dicendo che delle cose pazzesche, sai. Nel momento in cui le dice Parenzo, quelle cose verranno giudicate pazzesche. Cioè, in un altro regime, sotto un certo regime. Ma l'ha detto lei, in un altro regime. Ma non tornerà più, mi dispiace, Saia, lei è un fascista, un nazista, no, ma queste cose qui non torneranno più, mi dispiace per lei, non torneranno più queste robe. Io non sono fascista, veda lei. Ma come no? Non è fascista, se non è fascista lei, guardi, io sono Ale, Parenzo adesso dice che non è fascista, ma ti rendi conto o no? Assolutamente non sono fascista. Vabbè, Parenzo dice che non è fascista. Ma è un po', ma è un vomitorio, cioè non si può mettere le mani sul vomito. Un vomitorio è Parenzo, che fa tutto il perbenista lì in trasmissione con la signora di Cuneo, quella senza murate. Ma che c'entra quella? Che c'entra? Lui si beccherà un'altra querela. Sono andato per prendere quel posto, ma mi faccia tutte le Parenzo, se ci incontriamo, guarda, mi fai una bella querela, perché ti prendo a schiaffi e calcio al culo così. Ma no, ma dai, Saia, su. Che sono più incisivo. Vabbè, Saia, Parenzo non è in grado di combattere stasera con lei, perché ma non devo combattere, io non ho deciso che non combatto più contro il vomito. Sì, perché la redazione della televisione gli altri detto di non fare casino, lei questo non lo sa, Cruciani. Vabbè. Saia, arrivederci. Buona serata. Arrivederci, Cruciani. Buona serata, buona serata. Fascisti su Marte. Fascisti dalla Sicilia, in realtà da Marte. Gianni da Milano, buonasera Gianni. Ciao ragazzi. Fascisti su Marte. Adesso voglio inaugurare una nuova rubrica, Fascisti su Marte. Gianni da Milano. Buonasera a tutti. Stasera sono stranamente d'accordo con Parenzo. Cioè? È incommiabile il discorso del Papa. Tutto d'accordo. Io guarda, in un momento di difficoltà nella quale ci barcameliamo direi, proporrei anzi in questo, vada veloce direi, veloce ti posso vendere Lampedusa a Città del Vaticano. Beh, questa non è troppo, non è molto d'accordo con quello che dice il Papa, eh. Vabbè, ci no, sentiamo domani 18:30. Saluti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. La passione si sente.